Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, domenica 18 dicembre, sono le 14:33 minuti, cominciamo subito come sempre salutando le persone che nascono, che sono nate questo giorno e che ci fanno ancora compagnia. Oggi è la festa di Brad Pitt, sì, Brad Pitt che ha oltre 50 anni pure lui. Non vi presento ancora gli ospiti, li riconoscerete dalla voce, poi no, può anche parlare anche lei. Ma auguri Brad. Ma che dice? Vabbè. Allora noi abbiamo la possibilità, visto il nostro contatto con questi grandi attori, di parlare direttamente con lui. Per cui ce l'abbiamo questa possibilità. Pronto? Pronto? Ma che tartaglia questo? Pronto? Pronto? Ah, perché è lontano, a Los Angeles, sì. Non sento. Perché parli come Don Lurio? Scusami, ma sei, santa miseria, sei la voce di Brad Pitt, sei Brad Pitt. Buongiorno Pino, come stai? Bene, questo c'è un grande, vicino a me c'è un altro grandissimo attore doppiatore che non dico ancora il nome, puoi salutare Brad Pitt. Ciao Brad. Com'è Ciao. Il tempo lì? Bene, buono. Senti, buono, qui in Oklahoma è buono. Ma perché parli così? Tu sei la voce italiana di Brad Pitt, santa miseria. Non sei la voce delle gemelle Kessler. Ma non capisco, cioè, quanti anni fai Brad oggi? Credo 53. 53. Credo, mi sembra 53. Non lo so se non lo sai. Senti, ma Angelina sta lì con te oppure no, è proprio definitiva? Guarda, è un compleanno... di, come lo posso chiamare? Sotto Natale è brutto non avere più, anche perché avete 8 figli insieme. Quanti ci siamo? Ho lasciato prima Jennifer, adesso Angelina. Come un cane, meno male che ci sono quei due santi di Pino Insegno e Sandra Cervo che mi fanno gli auguri, guarda. Esatto, perché insomma se non fosse per Sandra Cervo tu non parleresti in Italia, insomma, no? No, parlerebbe la tua seconda voce. Parlerebbe Pino Insegno. Esatto, so che te l'ha rubato un paio di volte, tenterà ancora di farla questa cosa. Ma quindi, certo, questa è la parte divertente di questo lavoro. Lo so, il giorno è che te abbia il mal di gola e esce dei sci per forza il film di Brad Pitt. Io pretenderò di essere il direttore bidoppiato da Pino Insegno. Esatto, Pino Insegno che non doppia Brad Pitt ma doppia Sandra Cervo che doveva doppiare Brad Pitt. Posso fare sì, Brad... guarda, alla mia destra c'è Claudio Lippi. Mi spiace ma questo ti tocca oggi Brad. È il regalo. Data l'importanza del giorno, ti sei lavato almeno oggi o no, Brad? Perché non si lava Brad Pitt. No, si lava da poco, sempre, poco, pochissimo. Dicono ma chi ti ha detto Lippi a te? Angelina. Ma che ne sai? Non la faccio più, puzza come più. L'ha lasciato perché puzza. Perché non ne la fa più. Noi siamo così noi uomini. Quando vediamo uno bello o è gay oppure non si lava. È riconosciuto dal mondo. No, che non si lava. Non si lava. Odia il sapone. Lippi, ma che ne sai? Ma sembra, guarda, è una voce che ho sentito. Chiediglielo, ce l'hai al telefono. È vero, Sandro, tu ne sai qualcosa di più. Certo, per simpatia non mi lavo nemmeno io. Ma come? Si sente persino per radio. Per questo lavori più come doppiatore, come direttore da solo dall'altra come parte. Come dice il nostro collega famoso che è Roberto Scivadea, a Leggio facciamo guerre a scellari. Guerre a scellari. Fra te Scivadea che siete Tom Cruise e Brad Pitt, che non siete belli come loro, diciamolo, dai. Non siete... No, io guarda, sono... No, un po' più bassino. No, e non solo, dai, Sandro. No, i lineamenti devo dire che più o meno sono quelli. I lineamenti. Del termometro quando mi misura dalla febbre. Ma che so, dai, Sandro, non è così. Guarda, c'è lì Claudio Lippi, no? Sì. Ho avuto il piacere di vederlo l'altra sera alla festa del doppiaggio che tu hai magnificamente presentato. E mi avrà visto, ha visto quanto hai come visto? Che bella bellezza visto? Dei lineamenti. Io preferisco non entrare nell'argomento. La purezza del volto, è quello. Acerbo, tu hai vinto il premio come miglior direzione della serie Il Trono di Spade. Certo. Che lì non se lavavano davvero. No, quello lì, non se lavavano davvero. Quelli puzzavano. Io ho fatto i due di coppe. Sì, del Trono di Spade. No, vabbè, sei cretino, Lippi, non puoi cominciare così. Scusate. Due di coppe, dai. Invece alla mia sinistra c'è, finalmente, visto urlato dalla gente, diciamo, ma quando era, sta qui Massimo Lodolo. Massimo Lodolo. Buongiorno. Ci voleva la Garra qui che faceva. Massimo Lodolo è qui. Santa miseria. Sono qui. Hai capito, Acerbo? Sì. Acerbo che poi... Ciao Massimo. Ciao Sandro. Eccolo qua. Ciao Brad, scusa. Brad, scusa. Lui si sente Will Smith, si sente Brad Pitt. Ma tutti lui. L'altra sera stava vedendo Suicide Squad. Ed era cattivo, faceva Will Smith cattivo. Tutto. No, ti volevo dire che con l'occasione io adesso, qui a casa oggi, dalle ore 17, ho 24 persone che sono venute a festeggiare il compleanno di Brad Pitt. Ma non ti puoi prendere la festa di uno dei suoi attori, ma dai! Ma come? Però facciamo una cosa che a Brad Pitt piace molto. Cioè, ve la fate? Facciamo la riciclotombola. La riciclotombola? Ognuno porta la roba più brutta che c'ha. Tua moglie ha portato te, che fai? Mia moglie ha portato me e la mette come premio per le varie tombole che facciamo. Ma dai, ma che giorno? A che ora la fate questa cosa? Dalle 17 a notte inoltrata. Accidenti, non faremo in tempo. No, faremo in tempo, ma dobbiamo andare via. No, Lodolo, tu c'è da fare. Sì, per forza. Se no andremo a casa. Sì, come fai a perdere? Passare via esilarante. Guarda, Sandro, stiamo proprio a contare i minuti che ci dividono da sta situazione. Guarda, mi ricordo che la povera Angelina gli piaceva tanto fa sta tombolata. Quando la facevamo sta cosa gli piaceva da impazzire. Lei rinunciava a tutto, ma la riciclo tumble, come la chiamava, riciclo tumble. Ma non dire cazzate, dai. No, vabbè, l'abbiamo preso dopo il vino, Adesso vado a fare la pennica del pomeriggio. Sì, come fa sempre Brad Pitt. Ma chi sei? Più, ti senti più Brad Pitt, più Will Smith, più chi te senti tu, Acerbo? Io chi mi sento? Tu mi non sento, te senti bene. Non mi sento Michael J. Fox io, guarda. Michael quando J. stava Fox. Bene però, poverino. Sì, porella, sì, è vero. Ecco. Anche quello te l'ho rubato una volta. Sì, la mia vita, guarda, la mia vita è cercare di rubare. Indignamente, perché su Michael J. Fox ci stai bene, è vero. Come io sto bene su Harrison Ford. Ma non è bello che tu non mi dica una cosa del genere. Non potevi, ci stavo bene, c'avevo voce leggera come la tua all'epoca, va bene? Secondo me non ce l'hai avuta manco a 3 mesi. Io ce l'avevo. Senti, guarda, sto parlando su di testa. Bravo, dai. Non vedo l'ora che arrivi un bel personaggio, ecco. Di questi truciti così. Ma io sono romantico, ma che dici? Ma smetti. Va bene, Sandro, grazie di questa grazie bella a voi, momento di grande ironia, di grande e buon divertimento con quella magnifica trasmissione che tu grazie, conduci. Che bello. E un abbraccio a Massimo. Grazie, grazie Sandro, un abbraccio. Anche a Lippi, anche a Lippi. Buon Natale a tutti. A Lippi che c'è sta male che non vuoi salutare. Auguri Lippi, auguri Claudio, auguri. Tanti ancora auguri Acerbo, di buon Natale. E complimenti per come canta. Dovete sapere che Lippi canta magnificamente. Va bene, finisce qui la telefonata. Sì, grazie, auguri. Ciao Sandro, un bacio, auguri. Ciao. Allora, la festa è stato carino, non è che soffriamo di bipolarismo, no, che facciamo questo mestiere, no Massimo, tu non ti senti Vincent Cassello oggi, no, stai assolutamente tranquillo, no. Sei tu, no. Però adesso ti utilizzo perché è un altro compleanno, questo blocco lo passiamo di compleanni, è la festa del grande Steven Spielberg e insieme ai grandi autori che ho, e ringrazio Mauro Meconi e Alessia Navarro, grazie Alessandro di stare sempre al suo posto, al nostro grande tecnico del suono, grazie a Rachele, nostra caporedattrice, pronta per ogni evenienza, e grazie a Milano che ci mette in onda, insomma c'è un grande joint venture con Milano, insomma. È la festa di Steven Spielberg e Spielberg, visto che ho Spielberg, senti come sto. Spielberg, la pronuncia è perfetta, si può rifare. Bravo. No, siamo in diretta. E abbiamo preparato queste piccole colonne sonore che poi Massimo ci racconterà. Prima partiamo con la musica e insomma Spielberg è anche E.T., no? E la frase che caratterizza E.T. qual è, Massimo? Telefono. Casa? Sì, è quello. Interprete, però com'era? Telefono. casa. Hai capito? Neanche Adele. Sei brividi. Ed è una colonna sonora straordinaria. Grande film, grande colonna sonora di Joe Williams. La seconda invece che abbiamo preparato è tratta da un altro film. Varti, Alessandro? Ah, questo è bellissimo. Vai, Massimo. Questo è il momento di farlo. Eccoli, sono tutti qui. È la vostra opportunità. Oppure potete andarvene dalle vostre famiglie da uomini e non da assassini. E questa era Schindler's List, un altro sogno che ci ha regalato. Sogno, questo è un po' duro, però è il modo più giusto per raccontare qualcosa di duro, è farlo amare. Ah, per farlo odiare nello stesso momento, ma insomma, raccontare lo Shoah in questa maniera è pazzesco. Un altro grandissimo film, vai con la colonna sonora. Beh, qui siamo già sul gioco. Vai, Massimo Eroe. Il cuore, Indy! Sta attento al cuore! Eccolo là! Questo bisogna dirlo a Lippi, che c'ha quattro bypass. Fa attentissimo, non ti esaltare troppo, facciamo le puntate molto tranquille, Massimo, sennò questo lo perdiamo. L'altro film è sempre colonna sonora accompagnata da John Williams e Spielberg, un binomio assoluto di gran classe. L'altro film, capirai che questo non si va più al mare dopo che è uscito questo film. Che ti hanno scritto lì, Massimo? La paura più nascosta dell'uomo ritorna dal profondo. Ah, stasera alle 20:40 lo squalo ha cambiato le regole del gioco con quel film. Tu ti vedi quando fai il bagno, ditemi chi di voi non vede i propri piedi sotto. Io anche che quando si agge... faccio la doccia. No, Lippi, ma che c'entra, sei tutto nudo sotto... ma ti vedi è tutto. Peggio ancora quel poco che rimane. No! Ci arriva un piragnetto. Dai, ma non mi puoi distruggere un momento così epico. L'ultimo film che abbiamo scelto invece, Alessandro, immagino che notiate qualcosa di strano in vostro padre. È tutto a posto. Sono ancora il papà. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Io sono affascinato da queste due voci, no, più il puzzolente di Brad Pitt. Di Brad Pitt e Sandrino, sì. Perché si modificano, cioè non ce n'è un fiatino uguale a un altro. No, cioè, si cambia, ci lasciamo trasportare. È gente che non è bipolare, tripolare, quadripolare, c'è di tutto. È già finito il primo blocco insieme, ma stai tranquillo, Lippi, perché l'infermiera è qui e Voice Anatomy è appena cominciata. Grazie. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci, allora abbiamo cominciato con questa serie di compleanni e c'è anche un altro compleanno, intanto Mario Maldesi, il nostro grande direttore, grande, che non c'è più, immenso, uno che veramente immenso ci ha accompagnato in questa grande avventura. Poi Kate Richards, che questi proprio sono immortali, i Rolling Stones ancora cantano, non so ancora vivono, che cosa prendono soprattutto. E poi mi dicevi, Massimo, un compleanno importante, non di una persona famosa, ma per te. Ma di mio figlio. Esatto. Tommaso Lodolo. Ciao Tommaso, auguri. Quanti anni fa Tommaso? 23. 23 che hanno. Mazza, presto. Sì, cioè, no, hai fatto prestissimo, sì. Massimo. Sì, rapido. Rapido, quello non voglio entrare, pure Lippi potrebbe... Prima ancora io. Sì, di farlo, era già concepito. Tu c'hai figli, ma poi ne parleremo nel nostro faccia a faccia finale. Ma anche no, ma comunque no, ne parleremo. Massimo Lodolo invece. Eccoci. Allora, ovviamente Lippi, qui arrivano già i primi messaggi, vi ricordo il numero, ma lo sapete perfettamente, 349-238-6666, la nostra pagina Facebook sempre molto attiva grazie all'impegno dei nostri bravissimi autori, con dei filmati, con tutto quanto, con le curiosità, foto e quant'altro, e il vostro mi piace che continua ad essere sempre presente. Lippi è un mito totale. Sei un mito totale per Carlo. È la prima, la seconda, la terza moglie. Non lo so, no. L'avvocato della tua prima moglie. Grazie. Grazie Pino, finalmente hai avverato il nostro sogno. Lodolo è con noi. Cioè, sembra una cosa politica, una cosa storica. Lodolo è con noi. Che grande puntata, comincia benissimo. Vabbè, eccetera, eccetera. Così. Grazie. Messaggi grazie. Sono sempre ben accetti, ovviamente, in una domenica di festa, di calcio e di quant'altro. Carlo Lodolo, tu nasci a Roma il 12 11 novembre del 59, cioè, un'annata straordinaria. Classe di ferro, sì. Sì, sì, un'annata, sì. Non trovi? Tu di che anno sei, Lippi? Io sono del 45, quindi aspettavo da tempo che lui nascesse. Poco prima. Tu già eri stanco. Sì, esatto. Io già un palo. Esatto, già un inizio di prostatite c'era. Questo è come Woody Allen che dice: le farfalle vivono 24 ore, ma il pomeriggio però ne hanno già le palle pieniche. È l'anno successivo alla vittoria di Modugno a Sanremo con Nel blu dipinto di blu, e nel 59 era Piove, ciao bambina. Quindi lui è nato negli anni del io pure, 59, 30 agosto. Siete degli anni in cui c'è stata una certa rivoluzione, certo, in ambito, quindi avete portato sta ventata. Sì, ma non lo ricordo, me lo ricordo. Te lo ricordo. Eri un embrione. Eravamo piccoli. Eravamo piccoli. Vabbè. Tu sei attore, soprattutto un doppiatore, sei riconosciutissimo, dialoghista e direttore di doppiaggio. Tu esordisci in TV da bambino come protagonista di alcuni spot commerciali diretti dallo zio Sandro Lodolo. Ecco. Cioè, autista, io una cosa che non so, mondo, i miei autori straordinari vanno navigano. Che Sandro, sì, mio zio, te lo ricordi il pupazzetto del Rischiatutto, quello con Nasone? Certo, sì, lui, sì, che era un grafico, era un l'abbiamo autore. L'abbiamo rivisto grazie a Fazio su Rai, sì, 3, che ha mantenuto proprio quella grafica, e io lo dico con molta, un po' imbarazzato, ma questo Lodolo io lo ricordo da Rischiatutto, sì, perché era in effetti l'inventore di quello che è rimasto storico. Pensate che bella cosa, sì, un logo storico, un logolo. Un logolo storico. Non è una bella puntata. No, io no, pensavo che Massimo mi mettesse un po' di tranquillità. Un po' di serietà. Sì, dai, c'è stato già io, c'è, sì, Filippi, dico, sì, Massimino, no, mi mette tranquillo Lodolo, e invece devo dire che la puntata si preannuncia lunga e faticosa. Bella famiglia, però. Devo grazie, dire. Grazie. Io perché fratello di mamma o di papà? Di papà. Lodolo. Tra l'altro Lodolo. Friulani venuti da Udine, discesi. Ah, siete nordestici? Sì, di origine, sì. Siete nordestici, sì, voi? Sì, nordestici. È bello. E poi qui già cominci subito. Comincio subito. Questo è stato lo start-up non della so se te li ricordi, Claudio sicuramente, Liquore e Strega con Silva Coscina. Come no? E come non mi ricordo anch'io. Il primo sorso a Fascina, il secondo Strega, sì, possiamo dire. Che faceva sparire, cose... sì, sono cose storiche. E che faceva sparire gli oggetti, io avevo una decina d'anni, 12 anni. Dai, poi mi ricordo che feci di Curcio, insomma, un po' di spot da bambinetto carino come ero allora. Sì, poi con i capelli. Ma tutti sono adesso... stati anche Lippi è stato carino. Siamo stati carini. Ma devo dire, Lippi, tu sei sempre uguale. Tu eri grande già da giovane. Che bel complimento. È vero. Oh, no, ma è vero. Sì, è vero. Sì, cioè, sì. Visto così poi di persona. Cioè 71 anni, sì, tu stai detto sei 45. Certo. Però tu sei Lippi così. Sì. Che capello bianco biondo, cioè comunque. Quell'è. Sì. La faccia un po' disegnata, un po' anche segnata da ogni cosa che dici mi temo no, che abbia una conclusione, sì, hai, sì, queste rughe da sempre. Da sempre, sì, sì, sì, sì. Tanto è vero che il dottore si spaventò quando, sì, io telefono casa, una cosa del no, genere. Oh, ma no, ma sei così, la faccia simpatica, quella, vabbè, faccia è rimasta così. Sì. E dai, Lodolo è un po' più cambiato, sì, insomma, sì, dai, sì, però sì, ci sta. Dal 59, sì. Poi nell'ottobre dell'81 invece esordisci in teatro addirittura nel ruolo di Giovanni Battista nella Salomè di Oscar Wilde. Sì. Con la regia di Giuseppe Rossi Borghesano, sì, cioè, per cui hai navigato attraverso un po' tutte le cose. Sì. Tanto sei contento, visto che ti hanno urlato a gran voce di essere qui. Spero sono contento, ma anche in imbarazzo, perché sono grato di questa attenzione che mi è stata riservata. No, ma Claudio Lippi è il fratello di Marcello Lippi. Per favore, sono un cugino in seconda. Comunque. Ah, ci sei? Perché l'origine mia è Virginia, così come la sua. Ah, tu sei in Toscana. Toscana. Sì, però la cosa non... No, vabbè, insomma, non approfondirei, nel senso, ma è un grande Lippi. Accidenti, cioè, accidenti. Che altri Lippi ci sono in giro? Filippino è morto da tempo, era del pittore del 500. Ah, Filippo Lippi, vabbè, pittore del 500. Non eri? No. Poi ho avuto dei parenti che dipingevano le 500, certo, che cosa, i carrozzieri. Invece da quando l'ho sentito soprattutto con la voce di Lodolo prima allo squalo, anche prima di fare la doccia, mi vengono strani pensieri. Ma l'importante è non sentire la voce tua che presenta la situazione del genere, che quella, sì, quella ha ricreato, sì, l'atmosfera, sì, quella giusta, sì. Insomma, la tua passione qual è? Il teatro, Massimo? Sì. Lo sai che la mia passione per il teatro particolarmente mi venne un giorno che, vedendo Domenica Inn, vidi un gruppo di ragazzi a capo dei quali c'era un certo Massimo Cinque. Beh. E vidi, li vidi presentati da Pippo Baudo a una trasmissione. Sì. E io mi cercai un contatto col signor Pino Insegno allora. Per 1981. Massimo Popolizio, Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare. Sì, io non ti sto dicendo una baggianata di circostanza. Te lo ricordi bene. Io lo vidi in televisione di pomeriggio, domenica inna. Sì. Dissi: no, ci voglio stare pure io sul palcoscenico. Siamo un gruppo di folli. Perché poi eravate allegri, sì, gioiosi. L'allegra brigata. Per me il concetto che ho io dello spettacolo, e qui Claudio ne è un autorevole esponente, è la gioiosità. Ma sì, è un gioco meraviglioso. Sì. È un gioco meraviglioso. Sì, io voglio sentire invece, grazie a questa ricordo che mi apre vero, il cuore. È sincero. Sì, sì, l'ho sentito. E tu hai cominciato a 6 anni, poi già stavi in televisione. No. Già 18 anni. No, abbiamo avuto la fortuna che venne qualcuno dei Domenica Inn a vederci a teatro, impazzì. Sì. Venne proprio Tata Giacobetti, uno del quartetto Cetra, e fece il nostro nome. Spettacolo era a Garinei clamoroso. E a Baudo, e andammo in televisione quando Domenica Inn faceva 20 milioni di ascoltatori, per cui il teatro era pieno. Poi ci portarono al GB Show di Bramieri. E io venni a vederlo al Centrale, Via del Gesù. Come no? E casualmente poi sono finito ad abitare a Via del Gesù 30 anni dopo, 20 anni dopo. E lì sei diventato senatore della DC. E lì sono diventato senatore della DC. Senti, io invece voglio sentirmi uno dei tuoi grandi successi, e questo proprio Barton Fink dei Fratelli Coen. Oh, che bello. Dove tu eri John Turturro. Che film. Fratelli Coen. I Fratelli Coen. Ascoltiamolo un attimo di Massimo Lodro su John Turturro. Lei è uno scrittore, signor Fink? Chiamami Barton. È proprio lui! È proprio Barton Fink! Senti, Barton, abbiamo deciso di affidarti il soggetto di un film sul wrestling con Wallace Beery. Portami qualcosa entro una settimana. Non ci riesco. Ho altri 20 scrittori sotto contratto a cui chiedere un soggetto scritto col tuo stile. So che non dovrei chiederlo, ma ho proprio bisogno di aiuto. La settimana scade domani. Da solo non ce la faccio. Mi chiamo Charlie Meadow. Siamo vicini di stanza. Posso spiegarti i colpi base del wrestling in 30 secondi. Impara! Il pubblico vuole vedere azione, avventura, lotta, è in abbondanza. Non vuole vedere un eroe in conflitto con la propria anima. Ma volete capire, sono uno scrittore! Ti guadagno da vivere creando! Sono un creativo! È con questa che io parlo con la gente comune! Grandissimo. Madonna, che film straordinario. Sono un creativo. Sì. Vedi, come diceva prima Claudio, uno si lascia trasportare da quello che loro hanno già fatto. La bravura di chi sta davanti a quel microfono, come quella di Massimo Lodro, è ridare quell'emozione che hanno dato in originale. Insomma, e Massimo ci riesce. Devi. Ma credevo da sempre, per ignoranza, per una frequentazione di un altro mondo, che le voci, quando sono quelle del doppiatore rispetto all'attore americano, si perde, sono bravi perché ti dimentichi che è un altro che sta parlando nel corpo di un altro. Ma sto vedendo che è un fenomeno che mi un po' mi spaventa, che anche senza le immagini si riesce, anzi forse ricrea. Si ridà addirittura la valenza di quella che è la capacità interpretativa del rendere senza l'immagine un'azione. Vuol dire che funziona. Vuol dire bene, che grazie, avete questa i coglioni grazie, veri, sì, davvero. Bellissimo. Grazie. Non si può dire, sdoganata dalla trasmissione, sì, sdoganata dalla zanzara e dall'amico Cruciani, si possono dire, ma però, grazie a Beppe, la strada, noi riusciamo a dire grazie. Una parolaccina in ma più, bello, ma leggera. È bello. Grazie. Bella questa analisi, mi piace molto. Bravo Lippi, è una cosa nuova. Sì. Vedi, perché posso, ho fatto me ne vado bene perché credo di no, poter dobbiamo far meglio, poi alla fine parlare vabbè, io e te, vabbè, non te ne puoi andare. No, no, ma è sincero, no, davvero. Ma non si sente, ma non c'è bisogno che diciate non che mi è serviva sincero. Vedere le immagini, non mi serviva. È bello. Claudio Lippi e Lodolo. Beh, oggi è la domenica dell'evento, addirittura. Amen. Beh, amen. Sì, esatto, sì. Sembra la domenica prima di Pasqua. Sì. No, è bellissimo, e vola la trasmissione in questa maniera. Per cui adesso mancano pochi secondi alla fine del secondo blocco, ma staremo ancora insieme altri due blocchi insieme a Lodolo. Grazie. Purtroppo Lippi mi porto fino alla fine perché so che a casa non c'è nessuno che l'aspetta. Allora, no, lui già le cose, deve passare in farmacia, deve passare in farmacia. Insomma, c'è stata cambia il pannolone. Sì, lunga gli gambe, accorcia gli gambe. Va bene, e allora rimanete con noi, ovviamente grazie di tutta l'attenzione che ci donate ogni domenica e di volerci così bene, ma noi ci sentiamo fra pochissimo. Voice Anatomy, ovviamente, è appena cominciata. Voice Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Al mio fianco sempre Claudio Lippi, che mi sta accompagnando in questa bella avventura come una sorta di Virgilio. Forse Virgilio sono io per te, tu sei Dante, perché questo è un mondo nuovo per te. Io Alice, non so. No, perché... oh, smettila! E Massimo Lodolo, arrivano parecchi messaggi, questo mi sembra il più... bello, nel senso, a mio parere, Lodolo su Tim Roth in Pulp Fiction è storia, spettacolare come sempre. Allora, prima di far leggere qualcosa a Massimo, e Alessia Navarro ha portato una poesia di Frida Kahlo, lei è innamorata di Frida Kahlo, perché lo rifarà poi a Teatro al Quirino a maggio, ma avremo modo di parlarne di quell'avventura, della prossima avventura della nostra capoprogetto. Allora, invece, visto che il nostro amico l'ha ricordato, noi ce l'abbiamo, abbiamo un momento di Pulp Fiction dove il grande Massimo Lodolo presta la sua arte a Tim Roth. Ascoltiamolo. E come stanno le cose adesso? C'è lo stesso rischio di una rapina in banca. Anzi, è più di un rischio. Le banche sono più facili. Quelle federali non debbono fermarti in nessun modo durante una rapina. Sono assicurate, non gliene frega un cazzo. Vai senza pistole in una banca federale. Ho sentito di uno che è entrato in una banca con un telefono portatile. Dà il telefono al cassiere. Una voce dall'altro capo del telefono dice: abbiamo la figlioletta di quest'uomo, se non gli date tutti i vostri soldi, la uccideremo. Ha funzionato? Ha funzionato, sì, è questo che voglio dire. Un coglione entra in una banca solo con un telefono. Non con una pistola, non con un fucile, ma con un cazzo di telefono. Li ripulisce e quelli non alzano nemmeno un dito, tutto qua. La bambina è rimasta ferita? Non lo so, probabilmente quella bambina non è mai esistita, ma qui la faccenda non è la bambina, qui la faccenda è una rapina in banca con un telefono. Vuoi rapinare le banche? Non dico rapiniamo le banche, ti sto solo illustrando che sarebbe più facile di quello che facciamo. Niente più negozi di liquori. Non senti quando parlo? Sì, niente più negozi di liquori. E poi non c'è più lo sfizio di una volta, ormai sono in mano a troppi stranieri. Vietnamiti, coreani, non parlano neanche la tua lingua. Gli dici svuota il registratore di cassa, non sanno di che cazzo parli. Bellissimo, anche qui diverso da prima, dal Barton Fink di John Turturro. Un'altra chiave, beh, questo è un film epocale. Sì. Che articolazione, sì. Che rapidità. Sì, e sei tu, uno si stupisce, ne vedi tu. Sei tu, perché tuttora la mantieni. Comunque c'ho sto trombone. Che no, ma la alleggerisci, no? Sì, cambi, sì, fantastico. Cioè, la voce la cambia, sì. Questa si chiama proprio Voice Anatomy, è un'analisi, sì, delle voci in tutte le sue... Questo è dovuto alla duttilità delle corde vocali, perché... Ma anche no, all'allenamento, allo studio. In effetti, non riconoscere ogni volta, io pensavo fosse un altro... Non è sempre... Grazie, questo è un complimento meraviglioso. Non so di farli, non so di farli. È sincerità, è sincerità. Sono considerazioni. Me lo tengo. Sì, ma fai pure. Grazie infinito. A Lodolo c'è qualcuno che mi chiede di Francesco Verano, che ha cantato al Gran Galà del Gran Premio una divertente canzone, ma non ce l'ho. Magari la troveremo, la canzone di Vairano che ha dato addio al mondo del doppiaggio con la canzone Io sono qui. Ah. Ha tradotto la canzone di Steven Sondheim, I'm Still Here. E lui l'ha ricantata salutando tutto il doppiaggio italiano. Ma insomma, io credo che sia stato un addio come quelli. Sì, bel momento, ma un addio che ne arrivederci. Allora lo vorrei chiedere, visto che mi aiutano anche i nostri radioascoltatori, quale doppiaggio lo ha coinvolto di più? Quale sente di più? Modigliani, I colori dell'anima. Dio, sì, è vero, sei tu. Voi pensate, mi permettete di dire una cosa straordinaria, ecco, Alessia Navarro sta piangendo. Film bellissimo, diretto da Marco Mete, sì, che io chiamai, sì, di notte, perché sono rimasto estasiato su Andy Garcia, meraviglioso. Un film, I colori dell'anima, che pensate, ha mantenuto soltanto il doppiaggio italiano nel DVD, hanno tolto l'originale. Perché non ebbe nessun tipo di successo in patria, sì. Grazie al doppiaggio italiano è andato benissimo e hanno lasciato nel DVD, non c'è la versione originale. Pensate, perché ha scelto la distribuzione di regalare soltanto il DVD, di fare il DVD soltanto con la voce italiana, perché l'ha reso uniforme, l'ha reso vero, cosa che magari Andy Garcia in originale, non essendo italiano, quella è l'atteggiamento, la voce invece ha ridato ai personaggi, a Gene Puterne eccetera. È un film che io vi consiglio di vedere. Cercatelo, I colori dell'anima. Sapete che da questi microfoni non vi lascio mai senza bocca asciutta per quanto riguarda un film interessante, intelligente, brillante, che sia comico, che sia drammatico. Sappiate che non perderete mai due ore di tempo così a vuoto. I colori dell'anima vi riempie il cuore, veramente vi lascia un sapore in testa spettacolare. Massimo, hai fatto una cosa stupenda, me l'ero dimenticato, bravo. Grazie, io devo dire che questo tipo di esperienze profonde sono quelle sulle quali bene o male hai una partecipazione professionale anche più profonda. Certo, io ho avuto la coincidenza di aver doppiato Tim Roth su Van Gogh in Vincent e Theo di Altman, certo, che era follia. Sì, follia, lui in Modigliani e Malkovich in Klimt. E devo dire che questo tipo di devo dire che questo tipo di interpretazioni ne deriva una fascinazione anche personale intensa. E allora a questo punto l'idea di Alessia di metterti sotto gli occhi all'improvviso una poesia di Frida Kahlo ci sta, visto che è una grande pittrice del Novecento. Noi siamo abituati a non sapere cosa stiamo per leggere, cosa stiamo per interpretare. Allora, questa è una lettera d'amore nei confronti di Diego Rivera, che non ha nulla a che vedere con Gianni. Ah, no. Era un grandissimo pittore. Il figlio? No, figlio, ma era il nonno. Un grande pittore messicano, muralista, eccetera. Non muralista, ma muralista. Una storia d'amore bellissima, sfaccettata. Io vi consiglio anche lì, c'è un grandissimo film che è proprio Frida. Bellissimo. Insomma, oggi mi sento di consigliarvi delle belle visioni natalizie. E allora, con la musica adeguata, Massimo l'ha avuta all'improvviso, ma è un bravo attore, doppiatore, improvvisa. Una passeggiata. Ma sì, per lui è una passeggiata. Anche per noi. E per noi è il suono e l'amore e ci riempirà un po' il cuore. E allora, Massimo Lodro in questa bellissima lettera. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. Ma sei sorpresa mi fa. Beh, che bella cosa, bravo Massimo. Che le fai bello, vedi, Claudio. Le fai soffrire. Vedi, perché poi la notte è ancora più successo questa trasmissione, perché in effetti queste voci che ti accompagnano nei sogni, eccetera, i podcast scaricati, eccetera, perché bene o male ti fa compagnia. Forse è molto più notturni questi momenti, no? Che bel momento, hai sentito che bello? Non ho parole. No, bello, bello. Alessia dall'altra parte sta piangendo. Sì, sì, Alessia l'abbiamo perduta. Giustamente. Perché lei sta abbracciata ad Alessandro, nonostante abbia già moglie e figli, ma è un abbraccio che Mauro Mecconi stava qui riprendendo il momento di Massimo, perché poi starà sulla pagina Facebook. Già messa. Ah, ecco. Messa e già avremo le prime risposte, perché ma... è bello, eh. Va bene. Dillo. No, non c'ho parole, nel senso che che fosse che non sia una scoperta la vostra bravura, perdonami, no, dire. Vabbè, in questo caso io faccio passi indietro, indietrissimo, è scontato, ma che davanti a una poesia che non conoscevi, no, l'ha data adesso Alessia, no, sempre c'è stata, e poi Fatalità parlando di pittori perfetta, sì, no? Sì. Ci sia stata questa, non è solo la bellezza della voce, perché se poi una voce è bella ma è fredda e non arriva dal cuore, può essere bella quanto sì, vuoi. Sì, non è la bella voce, sono le belle intenzioni che fanno. È fantastico, a parte la bellezza proprio della poesia. Ma diventa bella anche, chi ha scritto questa bella poesia? Ti meriti un amore, scusa, mi sono appena collegato e ho sentito una magia di poesia. Sì, cara Francesca, è Frida Kahlo, è una lettera d'amore proprio al suo grande amore di tutta la vita, Diego Rivera. La grande Frida Kahlo. Complimenti alle emozioni che ci sta regalando Lodolo, eccetera, eccetera. Claudio Lippi vorrei chiedere se ha qualche idea per rompere la monotonia della TV. Vabbè, quello ne parliamo dopo. Io ho rotto la TV intanto, che è già un qualcosa. E... caro Massimo, Malkovich si è espresso sul tuo bel doppiaggio? No, non mi sa di no. No, Clint, credo. No. Anche è stata l'unica occasione in cui ho doppiato John Malkovich. Sì, perché ovviamente Luca Biagini l'ha accompagnato spesso. Come capita, è capitato bene, dai. Sì. Non si può lamentare, Malkovich. Sì, penso. Dai, non si può lamentare. Nemmeno Luca. Senti, tu sei la voce di tantissimi attori internazionali, ma però c'è un'altra cosa. Tu hai fatto tanta radio. Radio Romane Libere da giovane, da pioniere, fine anni 70. Il tuo piacere, a parte il teatro, a parte il doppiaggio, avete teatro e anche la radio. Sì, credo che abbia favorito per esempio l'articolazione, la dizione, perché parlare alla radio non ci sono pause, devi parlare. Non ci sono pause, poi era, insomma, dovevamo esprimere. Che radio era? Radio Anna Inn, Radio Dimensione Zero. Radio Dimensione Zero me la ricordo, Radio Anna Inn no. Poi partì militare, si interruppe questa magia, perché la radio è la radio, insomma. Days di Woody Allen dice tanto a questo proposito. Tu ne sai qualcosa, ma ne parleremo dopo. Lascia quello spazio, no, immaginifico, che è come un bel libro. Io pure lavoravo a Radio Lazio ed era il direttore Claudio Villa. Ti ricordi Radio Lazio? Claudio Villa. Arrivava con la tuta rossa da motociclista e dettava le regole. Ma era laziale? No, che c'entra? Perché lavoravo solo con i romanisti o con i laziali? No, non lo so. Radio Lazio. Io a Radio Lazio, ma non perché ero laziale. Radio Lazio della regione Lazio. Ah, non era sportivo. No, Claudio Villa, Reuccio era. Non mi sembra. No, non era laziale. Radio Lazio che non era, dovevi camminare un pochettino. No, guarda, quando c'ero io stava al centro storico di Roma, proprio vicino a via dei Giubbonari. Allora, ok. Ed era lui, era il direttore. Ecco, poi ti ricordi che cos'erano le radio allora? Sì, era una stanzetta radio in qualche spazio. Appartamento. Sì. Ti sentivo quello davanti. A chi c'aveva l'antenna, esatto. A chi c'aveva l'antenna più alta. Esatto. Chi ti sente, mi sentivano quelli davanti. Quelli davanti. Quello dietro no, perché c'era il palazzo. Sì. Zia. Esatto, ma hai sentito per radio oggi? Mettevi gli adesivi in giro. Sì. No, la radio era questa. Meravigliosa. Un successo, fu una conquista straordinaria. Le radio libere furono un successo vero, perché riuscivi a sentire la musica. Poi ci si vedeva di notte tra radiofonici, Fabrizio Frizzi, Teo Bellia, tutti anche i vari, che poi bene o male hanno fatto carriere, Anna Pettinelli. Eh sì, loro erano agli inizi, anche loro, Dimensione Suono ovviamente stava agli inizi, fu la prima radio che uscì dai confini del Palazzo di Fronte. Sì. E io mi ricordo che c'era Radio Luna, Radio Luna pare, che faceva le dirette con Ilona Staller. Sì, Radio Luna faceva la radio erotica in diretta radiofonica di notte. E beh, a quel punto tutto viene veicolato. Funzionava. Era onirica. Ognuno si immaginava esattamente. È stato antisignano proprio dell'1966, è vero, dell'1144, 199, credo. C'era tutto, tu ti ricordi, ti hanno chiuso a te il telefono. Tu fai finta per altri motivi di non sapere i prefissi. Ma no, hai fatto anche film porno sulle doppiati, quelli sì. Infatti no, se no facevano ride pure quelli. Era un caratterista, i piadini. Dai. No, noi facevamo la pubblicità con Ciufoli, con la premiata ditta, di quello che guardava, e c'era: sei curioso, sei morboso, allora 6144 6144 era col telefono scritto 6144 6144 per cui va bene, per cui la radio, anche quella è stato un grandissimo amore, no, quella non bisognerebbe veramente mai lasciarla. Ci sentiamo un Andy Garcia? Aspetta un attimo, che c'è Alessia Navarro che mi sta per dire qualcosa all'orecchio. Ah, ci abbiamo i colori dell'anima. E beh, che cosa aspettate? Ma sì, vai, i colori dell'anima, Modigliani, Andy Garcia, Massimo Lodolo, prego. Non dobbiamo continuare a cercare. Il futuro dell'arte è nel volto di una donna. Se avrò fortuna un giorno, dipingerò i tuoi occhi. Devo conoscere la tua anima per dipingerle. Radunate tutti i nomadi dispersi, le trombe del silenzio, vascelli di pace mi fanno dormire cullandomi finché arriva il mattino. Tu stai scappando. È ciò che faccio meglio. Io ho abbandonato mia figlia per stare con te. Torna ad essere la ragazza che eri quando ti ho conosciuto. Non ho niente, non sono niente. Io muoio senza lui. No, muori con lui. L'ho fatto per te, per aiutarti! Non ho bisogno di questo cazzo di aiuto! Avete mai amato così profondamente da condannare voi stessi all'inferno per l'eternità? Io lo Dio, i brividi. Questa grazie. È la frase che è bello. Grazie Massimo. Pelle d'oca, eh? Pelle d'oca. Sì, che poi comincia con questa frase di Jeanne Puterne prima di uccidersi col bimbo in grembo di Modigliani. Poi che storia. Che dice: avete mai vissuto un amore così forte da condannare voi stessi all'inferno? Io l'ho fatto. E si uccide. Sì. E sono insieme Jeanne Puterne insieme a Modigliani a Père Lachaise in Francia, a Parigi, vicini, nella tomba vicina, ed è un'emozione passare su quella tomba. È pazzesco. Se non conoscete la vita di questo grande artista italiano, beh, guardate I colori dell'anima e vi innamorerete anche della sua pittura, non solo del collo lungo che non ha senso. E questo fatto degli occhi è bellissimo, che lui disegnava le donne senza gli occhi e dice: farò gli occhi quando ti conoscerò, quando ti amerò profondamente. E in una mostra dove lui non arrivò in tempo perché fu massacrato di botte prima di arrivare lì e si ubriacò, lui scoprirono questo dipinto e aveva gli occhi di Jeanne Puterne. Cioè, una storia meravigliosa, bellissima. Grazie, che bel momento. Infinite. Ma di questo approfondimento. A tra poco ancora con i nostri amici Lippi e il grande Massimo Lodolo. Voi sanatomi, a tra poco. Voice Anatomy. Devo dire, domenica emozionante qui a Voice Anatomy. Grazie di seguirci così tanto, tantissimi messaggi di complimenti e non ce n'è nemmeno nessuno dedicato a me in maniera ogni tanto qualcuno mi attacca, ma pochissimi, devo dire, ma gli ospiti mi riempiono di gioia. A Claudio ti fanno, dicono che hai un grandissimo, un bel timbro di voce, sai anche recitare, per cui perché non ti metti a doppiare? Esatto, faremo uno speciale più avanti, ne parliamo dopo io te, perché, dove tu sì, hai fatto una cosa no, andiamo la diremo, Lodolo. Qualcuno invece dice: qual è il film che invece Massimo Lodolo si vergogna di aver doppiato? Ma io credo... beh, tanti, tanti, ma proprio tanti, sì. Io devo dire che sono stato spesso ghettizzato in ruoli orrorifici di cattivo che devo dire a qualche titolo o corde ideali, no? Di secchezza, eccetera. Però se dovessi dire... tanti. Con la A, con la B, con quale voglio dire? Ce ne sono tanti. Ogni tanto uno si presta, in effetti, dico, dobbiamo farlo, facciamo. Non è che posso solo scegliere i film migliori. Sempre un piacere. No, devo dire che... Ora non mi sovviene, però ti saprò dire fra pochi minuti qual è che va bene, allora intanto andiamo avanti. Per esempio, un altro attore che tu doppi splendidamente è Vincent Cassel. Sì. Dove lui, l'altro anno io mi ci sono appiccicato un attimo perché ha detto che il doppiaggio l'aveva rovinato questo film, eccetera. Sì. Ma dico, ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Sì. Se tu sei stato veicolato in questa nazione e nelle altre nazioni, e grazie anche a chi ti ha doppiato, a chi ti ha tradotto, magari può essere una brutta traduzione, eccetera, ma che tu sia stato veicolato male, proprio non è stata, cioè io non l'ho accettata proprio. Sì, come poi successe pure con Muccino una cosa del genere. Sì. Diventò un uno contro uno, stupidissimo, perché non è così. Cioè, tu puoi essere a favore, contro, quello che se ne può parlare, ma una guerra del genere è insopportabile, anche perché se esce un film in Italia o in Francia stesso, quando noi facciamo i film italiani vengono doppiati in francese, insomma, nessuno sì, si è mai lamentato. Altrettanto avrebbe dovuto, insomma, gratificarci in operazioni in cui è stato fatto, a mio parere, un gran lavoro notevole. Per esempio, ci abbiamo Di te, un film bellissimo suo di Cassel, che è Nemico pubblico numero uno, ecco, che è in due parti, poi un film diviso in due parti, devo dire emozionante. Noi abbiamo qui, ecco, un momento tratto dalla prima. Di questo mi piacerebbe conoscere la sua opinione. Esatto, ma non ha detto niente. Non ha detto niente. Ringraziasse di Dio. Perché? Non lo so, forse la Bellucci lo stava tenendo chiuso a casa. Non so, forse non è un po'. Chiamiamo Vincent Cassel, ma ce l'abbiamo qua. Cui, sentiamoci un momento di Nemico pubblico numero uno. Chiama Cassel e sentite un attimo come sei stato trattato, bello de zio. Vai. Dovrebbe sapere che quando si vive in un inferno, l'evasione è un diritto. Anzi, direi di più: l'evasione è un dovere. E per dirla tutta, un commercio. E dato che non parlo mai senza prove, signore e signori, sapete cos'è questa chiave? Eh? Sapete cos'è questa chiave? È semplicemente la chiave delle mie manette di trasferimento, ecco. Guardate che faccia che fanno, eh? Eh sì, e sapete come l'ho avuta questa chiave? L'ho semplicemente acquistata da un funzionario della penitenziaria per 300.000 vecchi franchi, signore e signori. Ah, giornalisti, signori giurati, ecco a che punto è il sistema che lei tenta di difendere, signor pubblico ministero. E dato che abbiamo l'onore di avere il commissario Broussard, che si è seduto come sempre accanto ai giornalisti, commissario, verifichi lei stesso. Bene, ne può pensare solo bene. Sì, penso solo del bene. un Cassel straordinario. Qui fanno, oggi fanno le domande loro, oggi abbiamo tutto, però va bene, complimenti da Francesca, c'è la domanda per l'altro. Cosa ne pensa della sempre più imponente ascesa e diffusione dei dialetti negli ambiti e negli ambienti che dovrebbero essere del tutto privi di influenze regionali o provinciali, con particolare riferimento al cinema e alle fiction italiane? Vabbè, sono giustificate, il dialetto ci sta, insomma, sei in Sicilia, va bene. Sei giustificato. Sei giustificato. Esatto. Vedo. Guarda, però, io, devo citare... Delle invettive ho fatto contro i fiction. Favore dei dialetti, la versione originale di Brian di Nazareth, parlo della prima edizione, sì, dei dove Monty Python, con Pino Golizzi, direttore, c'è per esempio un Mario Cordova che esprime un siciliano che io ogni volta che vedo quel pezzo della... Anche i pagini. Sì, non so, sì, sì, ricordo. Ecco, ma lì... loro parlano soprattutto delle fiction, no? Dei fiction, attori, no? Se è giustificato ci sta, ma insomma, ma se no, no. Sì, è Italia. L'importante è saper recitare, insomma, sì. Certo. Se poi uno deve recitare nel dialetto perché non sai recitare in italiano, allora no, sì. Insomma, non ti puoi rifugiare nel dialetto. Sono d'accordo. Beh, vabbè, lì finisce così. Vabbè, vogliamo... Montalbano in italiano, sì, non sarebbe Montalbano, visto un autore... Come Camilleri non l'avrebbe mai pensato. Anche Gabriel, sì. Garco in turco, però, non sarebbe, no, Gabriel Garco. È uguale, esatto. Si parla italiano, però lui comunque. Ah, non parla, però, no, è un turco dialetto. Ah, il dialetto turco. Sì. Però esatto. Credo che. Col gobbo. L'ascoltatore si riferisse, perlì, ecco, Zingaretti lì è accademico nel suo, sì, siciliano. Sì, siciliano. Però si riferisca alle moscerie, insomma, sì, alle, sì. A quelli che trasandatezze. Che non finiscono le battute, non si sente timbrata fino alla fine. Quello lo dico sempre. Dobbiamo, sì, andare, ti ho, sì, detto mille volte, che la devi, ma sembra, sì, sempre te sei rotto il televisore, sì, invece no, è qualcuno che non timbra fino, sì, alla fine. Cioè, abbiamo tanti contributori, vorrei farli sentire tutti. Abbiamo anche un altro Andy Garcia con Ocean Eleven. Il terribile Benedict, ce l'ascoltiamo, vai. Perché altrimenti dovresti alzarti e andartene subito. So quello che faccio. E che cosa fa? È solo una rimpatriata. Ti presento il mio ex marito, Danny Ocean. Signor Ocean, ero al suo posto. Scusa per il ritardo. Un ospite richiedeva la mia presenza. Non si preoccupare. Danny passava per il ristorante e mi ha visto qui seduta. Ma davvero? Pensi le probabilità. Un 179 casino a Las Vegas. Già. Lei è appena uscito di prigione, dico bene? Esatto. Che effetto fa essere fuori? Più o meno lo stesso. Danny stava giusto. Mi sono fermato a fare un saluto a Tessie in nome dei vecchi tempi. Rimanga per un drink. Non posso. Beh, allora. Non credo che rivedremo molto presto il signor Ocean, vero? Non si sa mai. Io so tutto quello che succede nei miei hotel. Allora devo rimettere a posto gli asciugamani. No, quelli li può tenere. Eccolo là, arrivano complimenti, arrivano tantissimi, oggi veramente tantissimi messaggi, qui addirittura le prime radio libere, Frida Kahlo, Le Perla Scea, Spino Insegno, ci titilla, andiamo su, La Belluccia è solo Belluccia, timbro di voce brutto e monotono, va bene. I giornalisti citano i nomi dei doppiatori solo quando si tratta di film d'animazione e di talent, che quando non sono attori distruggono i personaggi, spesso sì, succede sì, anche questo. Perché il concetto del talent è diverso, ma in America, esatto, in America sono attori che poi recitano, sì, e poi ci costruiscono il cartone, sì, animato, sì, sopra, sì, che è un'altra storia. Vabbè, ma questo non mi va di aprire questo link. Caro, no, Pino, se lo lodoli troppo si esalta. Beh, grazie. È un gioco simpatico perché ti fa un complimento, grazie, enorme. Grazie. Facciamo un referendum invece per Lippi. È ora che finirla che faccia il tappabuchi in TV. Diamogli una bella trasmissione tutta sua, dice Andrea da Udine. Non grazie solo. Andrea, vengo a Udine personalmente a casa a partela nella terra domicilio. Io vengo con te, perché la mia terra da Udine. Alla terra, alla mia, cioè, terra. Ti presenta Lodolo, ma ti doppia, penso. Lodolo sarebbe, no, come, sarebbe un successo garantito. Esatto, no, voce. Sì, sì, no, sì. No, è un gioco ovviamente. Ma tu non l'hai fatto per pigrizia il doppiatore? Io andrei avanti, ci sono molte altre cose da ascoltare. Quali sono le tue passioni, Lippi? Le tue passioni, le tue hobby, la musica. E prima abbiamo sentito quanto sia importante, perché a volte la colonna sonora è sempre importante, sì, ovviamente si celebrano quelle. E quando vive anche senza film, come le voci che hai detto prima, vuol dire, sì, che vuol è proprio dire enorme. Che, cioè, e prima c'era un la momento musica musicale che era fantastico. dire fantastico è poco, non ci sono gli aggettivi per dire l'emozione che almeno io oggi sto provando, che è verificata anche dalle, sì, arrivano veramente dalle tanti testimonianze. Sì, sì, sì, io ti ringrazio per quello che dici, perché come doppiatore ho spesso vissuto questa esperienza, che più dell'attore, voglio dire, avendo analizzato l'attore e l'anello, però più dell'attore ti conduce il sottofondo musicale. E la recitazione mi sembra è... che ci sia una chimica che difficilmente si trova in altri aspetti dello spettacolo, cioè quando la musica, parlo di, che è più cinematografica che teatrale, mentre il teatro è la verità della fisicità che ti fa entrare nel personaggio e così via, al cinema la musica credo sia vitale, portante, cioè se sbagli un... No, ma infatti ci piace anche a noi che ce la lasciano nelle cuffie quando doppiamo. Credo che gli altri dice molto. Togliamo la musica, mettiamo lo stem, come si dice? No, lascia la musica. Lo stent? Tu sei sempre con sti stent e bypass e a prostata. No, lo stem è quando noi ci levano musica, effetti per lasciare solo la voce, perché così riusciamo a capire quando parla, che certe volte parlano nel casino e dici quando però parla. Però la musica aiuta. Sì, da morire. Accidenti. In molti casi. È importante. Ti porta proprio sotto il braccio. Sì. Senti, caro Lodolo, tu hai doppiato veramente, inutile che nomino tutti quanti, bianchi e neri. Sì. Dove credi che la tua voce sia più efficace? Bianchi. Perché si intende per bianchi e no, neri? No, è nero e rosone. La voce, cioè, un certo tipo, il personaggio bianco, romantico. Bianco. Più su bianco. E non è un discorso razzista, ovviamente. No, non preferisci il bianchi. Ah, sai bene, io ho fatto Adolf Hitler in Lui è tornato, che ha spopolato sul web. Sì. Però sono bianco, sono pure... Ho una recitazione un po' snob a qualche titolo, un po'... Qualcuno parla della tua pubblicità in maniera... Non posso dirla perché vabbè, tanto si sa quale... Però c'è... Ha detto... Aspetta un attimo... C'è il signor Garcia nelle pubblicità... Sì, una è Garcia, è vero, dell'Amaro, eccetera. Ma c'è una che faceva molto bella, dice... Santa... L'altro lo doppiamo anche Merovingio in Matrix 2? Sì, E1. E1, è vero. Ma una cosa... Ah, ecco... Con Lodolo anche lo spot della, vabbè, Alameda, insomma, si sa che sei quello. Acquisisce una prosodia disarmante. Una prosodia? Che sarebbe non taglia la pelle? No. No. Ma stiamo andando in pubblicità, vabbè, comunque è vero, la fai benissimo. È bella. Sono prosodico? Sei prosodico, lì a me vogliate fare la barba pure quando non ce l'ho. Che cazzo. Grazie. Com'è? Non ho capito, ripeti... La dottrina della quantità sillabica, esatto, il ritmo poetico, sì, la prosodia sarebbe questo. Sì, chiaro. Ah, questa, esatto. Tutti io però ve l'ho letta perché io sono bravo, fatto bene, fatto la Navarro mi ha suggerito e ha fatto molto, molto meglio. Bene, stiamo andando in pubblicità, vero? Grazie, va bene, Navarro. Restate con noi, la Navarro anche. Altra prosodia, tra poco. Esatto, tra pochissimo, tra poco. Prosodicamente Pino Insegno. Sì. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Al mio fianco Claudio Lippi, alla mia destra e alla sinistra Massimo Lodolo. Bellissima puntata, devo dire, vi piace? Io le riconosco le cose belle e devo dire anche dai messaggi, ma anche dal piacere. Meno male, noi ce ne accorgiamo quando stiamo facendo una cosa fatta bene, si respira in qualche modo e credo che arrivi anche dall'altra parte del filo. Qui arrivano tanti messaggi. Mario dice: Talenton, dona 5 euro con SMS da telefono fisso per toglierci talent dalle palle. Vabbè, complimenti per lo strambo personaggio del collezionista di Benicio del Toro. Ah, sì, grazie. E neanche tu, anche quello. Anche quello. Sanno tutto. Tutto sanno. Il tanto perfido quanto bravo Gary Oldman in Air Force One. In Air Force One. E in Una vita al massimo Gary Oldman mi è piaciuto tanto. Pure. Sì, lui è un bel attore. Air sparisce, Force One che ritorna. Era Cecen. Ecco, io non mi piace quando dopo di Air Force One mi chiama sempre per fare Ceceno in telefilm, in altri film. Mi ha sempre chiamato per quel film. Sono e quello Ceceno. Non mi piace poi quando io sente. Tu capisci? È come a Barzelletta quella di Totti dice: dammi un euro, io Ceceno. Beato te, invece ho 30 euro per cenare. Fa ridere sta cosa. Va bene, senti, abbiamo chiamato alcuni amici per fare anche gli auguri di Natale, anche un amico che ascolta spesso questa trasmissione, è in quel di Milano, spesso sta a Roma, sta sempre in giro, lui è l'unico che non prende botte da Striscia la Notizia, non nemmeno mai, forse perché si traveste, scappa, è Dario Ballantini, pronto? Buongiorno. Va a finire che mi menano, che tu te travesti sempre bene, tu non rompi le scatole troppo, dai, sei io carino. Sfugo al controllo. Dai, sei, quando fai Valentino, quando fai queste persone, sei sempre poco invasivo, cioè sei giù, sei invasivo, perché lo sei un po'. Senti un po', hai visto che ci abbiamo qui il dottor Lippi e Massimo Lodolo come voci che ci stanno accompagnando in questa bella domenica, e tu sei un altro che la voce la tratta a 360 gradi, insomma. Sì, perché sai, oltre al trucco poi comunque bisogna stare attenti anche a quello, sennò poi diventa, dice, il trucco è bello ma la voce meno, quindi alla fine è doppio sforzo. Ecco, questa poi è la voce vera di Dario Ballantini, che non siamo abituati a sentirlo un po' in toscano, un po' leggero. Inesistente, livornese. Livornese, come era la mia povera mamma, livornese. Però la tua voce è bella, com'è Valentino, Dario? Com'è? Ciao cari, che carine le vostre voci, mi hanno dato un brivido, guarda, vi ascolto da Parigi. Fai gli auguri di Natale, fai un po' di auguri di Natale con le tue bellissime voci, dai Dario, poi un giorno vieni qui però. Allora vediamo il pontefice. È normale, no, che se deve, ma fare, ma è lavoro di Natale, no, è certo. Lavoro del Papa, ma è fare. E buon appetito, no? Certo. Questa è stata pure la tua festa, Papa, ieri. Poi abbiamo il Renzi. Ma lo fotta, a me la festa me l'hanno fatta quest'anno! Per cui non ha mangiato il panettone, Renzi. Non è arrivato come i veri allenatori di calcio. Non ha mangiato il panettone. Ma ne fatti sempre così tanti. Poi Dario. Ora poi c'è Trump, l'abbiamo già provato. È vero, Trump è straordinario, io l'ho sentito già. Oh, com'è Trump? Come me lo fai? Buttameli lì gli auguri di quel rosso. American, no Mexican. No. Okay, no Mexican. All American. Okay. Ma insegno. Sì. Okay. È uno poco, no Mexican, questa è la parola d'ordine. Sì. Tu doppiaggio, mai ti sei mai avventurato in una sala di doppiaggio? Lo trovo molto difficile, quindi difficile, faccio i complimenti le poche volte che è capitato, non so se l'è facilitato, ma è stata dura. Per alcuni film dove magari c'era da ridoppiare un pezzetto, veramente non. Sì, è difficile, diciamo, anche seguire se stessi, non è facile, no, è vero. Ma poi il foglio, lì, la cosa, il numerino che scatta, mamma mia. C'è l'ansia, non so come fate. Perché vedi il film, senti la cuffia all'originale e leggi e parli. Dove sei, a Milano in questo momento? No, ora sono a Livorno dai bimbi. Figli e dai miei. Dai bimbi, sono grandi ormai, i bimbi. Ci abbiamo anche in comune le nascite. Esatto, sì, le mogli no, ringraziando il cielo, le nascite sono più o meno simili. Il primo c'ha 19 anni, la tua prima c'ha 19 anni. Esatto. Però insomma, ecco, soltanto questo c'ha comune. Infatti ci incontravamo per Milano 2 dicendo come va, sta per nascere. È un inizio di tentativo di fare le persone serie. Abbiamo tentato di essere seri, che tutto il giorno, come fanno i nostri figli a seguirci quando te vedono, papà chi è papà? Cioè a te, sì, certo. Dice guarda papà, ma qual è papà? È babbo imparruccato, hai capito? Gli devi spiegare da piccolo che papà a me menava una buona domenica e mio figlio piangeva. Non capiva che era un gioco di schiaffoni, eccetera. E così pensa quando ti vede papà Valentino. Ma una volta Morandi glielo dissi, mi disse: ma sai, devi spiegarlo, sai, papà fa questo lavoro, si mette le parrucche, ma non è che lo può fare nella vita. È tutto un discorso, come dovevo spiegarlo. Esatto. Dario, perdonatemi, hai mostre in giro in questo momento, che io sì, amo il Ballantini a Genova, al Museo della Commedia. Invitiamo ad andare per Natale. Ma è vero perché che Dario è un grandissimo artista, è vero. Geniale, davvero, geniale. È vero. Ma è un ragazzo, perché per me è un ragazzo Dario, è un ragazzo di grande sensibilità, come uomo, come amico. È sempre stato, non è la quantità delle volte che ci siamo visti, è la qualità di quando ci sentiamo. È una specie di affetto così, al di là di tutto. Esatto, come dovrebbe essere, no? Sempre, perché è bello fare i complimenti. Io qui vicino a me ho un grandissimo attore doppiatore che è Massimo Lodo. Facciamo lo stesso mestiere, ma il piacere di urlare la sua bravura attraverso queste. Non lo faccio tanto perché questo è il mio lavoro in questa radio, lo faccio anche a microfoni spenti. Perché la gioia di fare i complimenti. È enorme quando c'è gente brava. Non è quella che te toglie il lavoro, è quella che te l'aggiunge il lavoro. Più gente brava c'è in giro, è meglio ma è per tutti. Ma quello ci nasce col carattere, sai? Ma dai. Sono problemi caratteriali, c'è poco da fare. Quelli che arrivano senza senso, senza un background giusto, allora lì vado in puzza, davvero. Lì divento invidioso, lì divento veramente cattivo, invidioso, e dico no, non è giusto, non mi piace. Capito. Come dove lo passi il Natale? Dove lo passerai? A casa? No, oppure torno in a giro? Livorno dopo che ho degli spettacoli, perché faccio anche un po' e stai pure in tournée, in esatto. E vengo a Livorno dai miei che sono anzianotti e con i tre figli. Eh sì, e dai, quei figli almeno ti riconoscono. Questo è papà, è tornato. È da Babbo Natale. Esatto, non ti vesti da Babbo Natale. Veramente. No, una volta fai ballantini. Dariuccio, ti ringrazio di questa testimonianza. Ti ho chiamato soltanto in previsione che tu un giorno ti faccia una passeggiata qui a Roma. Sì, no, ci vengo volentieri. Tanto che giri. A me piace molto la trasmissione, dica la verità. L'ho sentita casualmente. E eh mi sì, piace succede molto. Così. Dario, un abbraccio a te, alla tua famiglia, a tutti i tuoi personaggi e ai tuoi genitori. Anche a te, alla radio e quelli che hai lì, grandi doppiatori. Ciao, grazie, auguri. Ciao. Auguri. Dario Ballantini, grazie. Ciao, amico mio, grazie davvero. Beh, carino, veramente è una persona squisita. È una sempre. Persona. È una persona, quello che poi ne parleremo di questo. Va ne bene, parleremo. Si accumulano gli argomenti. Gli argomenti, sì. Perché voglio godiamocelo, godiamocelo. Noi ce lo stiamo godendo veramente. Anche perché ma messaggi... quanti film, adesso mi viene spontanea, un elenco che già si vede dai fogli, ma tu hai una esatta misura di quanti film hai doppiato, non tanti. Ma personaggi... c'è scritto Jenna, devo dire, sull'inciso di doppiaggio su Jenna, mille film quasi. Penso dice... di più. Di più di mille. Penso film, di più perché sono 38 anni di attività. Eh sì, sono 12 anni. Quanti? È vero. Quanti? 12 anni. Ah, un po' come i tuoi. Sì, invece anni che sì, stai in attività. Sì. E Claudio, con il suo savoir-faire e sottile umorismo, dovrebbe fare una trasmissione insieme estrema come la zanzara, dicono qui qualcuno. Walter dice: beh, Lodolo in Matrix con il Merovingio dà una caratterizzazione alla voce che non è facile riconoscerle. Beh. Sì. Pino, fai leggere anche a Lodolo le istruzioni per il montaggio delle mensole, perché l'altra settimana abbiamo avuto la splendida Domitilla D'Amico che ha letto con un esercizio di stile vocale le mensole, e sta quasi a 200.000 visualizzazioni sul nostro sito. Io preferirei se avesse cortesemente le istruzioni per montare l'asse del water. Ma che volentieri, volentieri. Perché non riesco ad avvitare. Allora mi cercate in internet un attimo, per favore, come davvero. L'istruzione per montare l'asse del water. E non perché sia una voce di merda, insomma, ma perché non l'ho capito. Ma la sì, mia ma è un'esigenza privata, personale. Però visto che ci abbiamo, io sono sempre dell'idea, come Gassman, sì. Già diede esempio, sì, che una voce può raccontare qualsiasi cosa: il menù, le medicine, no? Le istruzioni, il bugiardello, bugiardino delle medicine, oppure l'elenco del telefono. Insomma, lì basta raccontare. Sì. Allora, con i nostri amici attori doppiatori, sì, ogni settimana ci divertiamo a leggere qualcosa. Lo sciacquone c'è, in effetti, no? Non lo so, però se riesci a dare un senso all'asse della cosa con la tua voce, poi fa tutto. Va bene, pure un sciacquone. Grazie. Intanto voglio farmi sentire, non mi finirai mai di ringraziare per averti ospitato con Lippi, è vero? Abbiamo un'altra cosa. Ah, un Colin Firth, anche Colin Firth, Le false verità. È il film di Adam McGoyan, Le false verità. Esattamente. Con sì. Un altro film straordinario di un altro regista pazzesco, Ararat, Le false verità. Kevin Bacon. Sentiamocelo, sì. Questo False Verità, il trailer con Colin Firth, doppiato magnificamente da Massimo Lodolo. Sei stata a letto col mio ex socio? Tecnicamente. Non mi sembra che sia soltanto un dettaglio. Scriverò del modo in cui mi ha teso una trappola. Ci metterò persino quelle foto. È la tua parola contro la mia. Sei una giornalista che non rispetta le regole. Essere un bravo ragazzo è la cosa più difficile al mondo, quando non lo sei. La verità è che potrebbe essere un killer. La domanda è fin dove sei disposto ad arrivare. Bellissimo questo, ecco, questo False Verità. Con Colin Firth io ho vinto un Oscar, Shakespeare in Love, che mi è stato proprio portato da Colin. Sì. Vive in Italia. E a proposito di quello che dicevamo prima, delle voci, delle cose, degli accenti stranieri, in Love Actually, altra esperienza con Colin Firth, sì. Fa un monologhetto. Io ho fatto un monologhetto in un portoghese difficile, un accenno di portoghese. È difficile. Allora, con l'accenno di portoghese, sono arrivate le cose. Come si monta le cose? Mauro, ecco, scusi. La tavoletta del bagno, ma insomma, cioè, ma eravamo amici con Massimo Lodolo, qualcuno dice, Pino, sei molto onesto, fai bene, bene a lodare chi è bravo, soprattutto i tuoi colleghi se sono bravi come Massimo Lodolo. Bene, va bene, altri bei messaggi. Vai Massimo, divertiti come vuoi tu, in ceceno, in portoghese, divertiti. La prima cosa da fare consiste nel togliere la vecchia tavoletta del WC, smontando i supporti che sono fissati con dei dadi denominati a farfalla. E si possono essere tranquillamente girati e rimossi adoperando solamente le proprie mani. Prima di procedere al montaggio della nuova tavoletta, è consigliabile pulire accuratamente il WC da eventuali tracce di sporco e incrostazioni depositatisi nel corso degli anni. Bene. A questo punto, dopo aver pulito tutto attentamente, prendete la vostra nuova tavoletta. Nella confezione trovate due nuovi perni filettati che vengono abitati alle piastre. Romantico. Guardando le vecchie cerniere, dovrete controllare se i perni filettati erano avviati sui fori centrali della cerniera oppure su quelli esterni. Perché dovete fare lo stesso con la nuova tavoletta. Isterico, Tim Roth. Pertanto introducete la barra filettata nel foro della piastra e avvitate a mano per due o tre giri nella posizione corretta. Quando il perno si arresta, stringetelo con la chiave a pappagallo in un punto molto vicino alla piastra e dunque senza danneggiare la filettatura in cui fa presa il dado a farfalla. Ironico. Serrate leggermente, badando a non spanare la filettatura della piastra, quasi sempre corta e debole. Adesso potete inserire sui perni le rondinelle in nylon e introdurre i perni nei fori predisposti nella zona posteriore del vaso. Adesso per noi l'amicizia con Massimo Lodolo credo finisca qui, però, sì, però è stato meraviglioso, è bellissimo, bellissimo. Questa è la testimonianza che la voce può raccontare tutto, ma poi soprattutto questa è radio. Io vorrei, non so quanto sia credibile, ma spero di esserlo, come per altri versi in 50 anni di lavoro. Gli è arrivato il foglio adesso per sì, una... non ha sbagliato neanche una virgola. Una virgola. Come un'addizione velocissima. Quindi, pazzesco, dire, inquietante. L'improvvisazione negli attori è poco riconosciuta, sì. E non tutti ce l'hanno, ovviamente. No, certo, questa capacità. Leggere non è per la prima volta le istruzioni per montare una tavoletta che io ho letto migliaia di volte e non l'ho capita, adesso l'ho capita. Finalmente. E mi ha anche un po' eccitato. Vero, c'è stato un momento che la non cambierò vedevo. Spesso. Guarda, tanto l'abbiamo. Già Mauro Meconi l'ha postato, per cui ci siamo. E questa è la pausa lunga? No, non è la pausa lunga. Tra pochissimo con i nostri amici Voice Anatomy, a tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento. Voice Anatomy. Che puntata, ragazzi, che puntata. Massimo Lodolo al mio fianco, come Claudio Lippi, col quale tra poco, il prossimo blocco, staremo tre blocchi insieme soltanto io e te, anche perché Massimo deve quindi tornare. Quindi avete da fare, no, da festeggiare. Quante visualizzazioni, Pal? In 10 minuti quasi 3.000 visualizzazioni. Dai. Della prima, non delle tavolette. Ah. Non della tavoletta? No, ah, no. quello prima, che ha fatto la lettura di Frida Kahlo, meravigliosa. Senza musica però l'hai montata, devi montarla con la musica, dai. Ho capito, lo so che è difficile, però lo devi fare. Ciao, in Z la formica Lodolo doppiava il cattivo. Penso dopo anni mio figlio non si è ancora ripreso. Grazie a tutti, Antonella. Sì. Sì, è vero. Sai che mi è successo nei corridoi delle sale che una mamma col bambino gli ha detto al figlio: sai, lui è Maltasar della serie lì, Arthur, il popolo dei Minimei. Sì, è vero, di... E è scoppiata a piangere, portami via. Io dicevo: no, non sono così. Sono buono. Esatto, perché poi i bambini giustamente ti avvicinano, segnato. Ma poi non capiscono. Sì, come fanno a entrare nelle case? Non invitano alle feste. Eri veramente infame. Ciao, Pino, non c'entra nulla con la trasmissione di oggi, ma mi è piaciuto il tuo doppiaggio di Viggo Mortensen in Capitan Fantastica. Bellissimo, un grande film, Teresa, sì, veramente. Bello, bello. Poi lui è nudo per la prima volta totalmente, ho fatto una foto. No, mica per fare misure. No, no. È nudo. No, non volevo fare paragoni. Dice: hai visto uguale? No. Ma però lui o lui? No, io. Lui era nudo nel film, perché vive nella è foresta. Ha fatto una bella figura. Vabbè, c'ha 60 anni, sta benissimo. Appunto. Capirai. Tu sei mai stato così a 60 anni come Viggo Mortensen? Neanche a 18. E allora. Dove ti trovi meglio, Massimo? Leggio, su un palcoscenico, davanti a una cinepresa? Sul palcoscenico. Resta il tuo primo amore. Sì, Però poi di fatto io non ho più amato apparire, quasi per una forma di coerenza col mestiere del doppiatore. E ho avuto uno sviluppo in questo senso coerente, ho preferito il doppiaggio. Vediamo se Gabriella Carlucci è d'accordo, o Milly Carlucci, se Milly Carlucci è d'accordo con questa scelta di Massimo Lodolo. Sei d'accordo, Milly? Sì, sotto quattro di voto, perché ovviamente per sera scenderò in pista i nostri giocatori, vedremo ovviamente i nostri ragazzi che veramente liberano tre stelle, vedremo chi passerà il turno, sì. E chi invece dovrà invece passare, ma che c'entra? No, ma meno c'entra questa cosa. No, no, Milly. La nostra giuria. Non c'è la giuria, Milly. Ma che Mariotto? Milly, calma, non c'è Mariotto, non è cantando, ballando sulle stelle, con le stelle. Sotto le stelle! No, è sotto le stelle, sì, questo era Mondo Vianello, però. Che sembra era Mondo Vianello a un certo punto, com'è? Sì, com'è? Sì. Buonasera. Senti, Raffaella, c'è anche la Carrà, immagino, c'è qui Claudio Lippi, vero? Mamma mia, buonasera a tutti voi, buonasera a Claudio Lippi, mamma che bello sentire The Voice, mamma mia. È vero, signori. Emanuele Aurelio, sì. Emanu, ciao tesoro. Ciao, brava. Ciao Pino, ciao a tutti, come state? Bene, noi volevo questa trasmissione, ti ho chiamato e ho detto intanto non vedo l'ora di vederti qui in carne ed ossa davanti a un microfono come meriti di stare, ma mo c'è pure una creatura, non te muovi da quel dell'Umbria, no? È vero, sì, da queste mura, sì. Ogni tanto vado a fare gli spettacoli, me lo porto, ogni tanto lascio anche ai nonni. Stai parlando in viva voce, Aureli? Sì, perché non si sente, se non capito, sa l'età. Ma come si sente? Ma guarda come vive, si sente male qui, ma vivi col telefono. Ma come in viva voce? Dai, ma mica stai guidando. Mi senti? Meglio, eh. Oh, tu sì, ma io no. Ma tu ti preoccupare, faccio tanto la domanda. Tu hai mille. Qual è la tua voce? Qual è Emanuela Aureli, questa qui? La mia voce purtroppo viene questa. È una voce, diciamo, normale, o quasi normale. Sì, ecco. Sì. Un po' del centro, però. Un po' del centro Italia. Tu sei d'Ernana, sei spoletina, di dove sei esattamente? Io sono di Terni. E dintorni, come si dice sempre, no? Sì, lei è strano perché la senti parlare con tutti i voci, poi all'improvviso dice: se andiamo stasera ci vediamo, non ci vediamo, tu non sai se sta più a per culo oppure parla, e lei parla così perché poi è simpatica, la parlata umbra è divertente. Tu pensa quanto io mi sforzi veramente di parlare bene, no? Però non ce la fai. Non ce la fai, è vero, Emanuele, non ce la fai. Però insomma la cadenza è quella e l'appartenenza pure, quindi tieni stretta, bisogna in un certo senso, no? No, essere mai diversi da quello che uno è. No, guarda, poi per Lippi, recitare, per fare le voci, uno poi cerca certamente di annullarla sta cosa. Sì, ma poi ne fai così tante che all'ultimo devi riprendere la tua vera natura, insomma, la tua vera voce, come Massimo, insomma, non è che a casa fa la pubblicità da Alameda. Ma complimenti a Massimo. Grazie. Grazie. Lodolo è una garanzia, Lippi non lo so se sta ancora in garanzia. No, ma è scaduta la garanzia lì, Emanuela, non c'è più niente da fare. Fino, tu sei un grande, sì. Tu mi hai sempre, voluto bene tantissimo. Ma sempre. Ho vissuto con te l'altro anno. Un fratello maggiore da cui apprendere tanto. Amore, no, da te c'è da imparare. Ti dà emozioni, ti regala sempre emozioni, sia quando ti fa ridere che quando ti fa commuovere o fare cose serie. Che bella che sei, sempre stata sempre così. Anche un'altra persona, vedi la bellezza di fare i complimenti alle persone, no? È vero. Di volersi bene. Oh, ma che è la cosa più bella. Non voglio fare la trasmissione francescana, ma santa miseria. Ma non è più bene, meno faticoso volesse bene che odiasse. Radio Maria è 24. Vero. Esatto. Chi si è collegato adesso? Dice, ma hai visto Radio Maria? Cioè, sei un po' si alleggerita. Lì Pizzegno e Lodolo e Aurelia a Radio Maria, si alleggerita. Eppure quello ci insegna tanto, sa, Radio Maria. Sì, per carità, è l'unica che si prende sotto le gallerie pure, si prende dappertutto. Però. No, va bene. No, ci sta, per sì, carità. Sì, non ci sta, no. Come no. No, poi insomma, bisogna essere attenti e rispettare certe cose. Ovviamente non voleva essere un gioco sulla religione, era un gioco sul fatto che è una radio molto ascoltata, sì, molto seguita e ovunque. Va bene, un giorno ci lavoreremo. Senti, facci un paio di auguri che ci siamo. Guarda, facciamo gli auguri. Allora, con chi le vuoi fare? Mara Venier, per esempio. Sì. Ciao tesori, ciao belli, sia tanti auguri, che sia veramente un Natale bello. Uguale, terribile. Per telefono è brutto perché è uguale. Aspetta, che c'è anche Barbara D'Urso. concorso. Oddio. Salutare. Ma dai, Dolce, la Dolce Barbara. Benvenuti a pomeriggio 5. Sei nonna Zennarina che oggi compie 115 anni. Nonna Zennarina, ti voglio bene col cuore. Col cuore. È uguale. Fa schifo, è uguale. No, uguale, non fa normale, un po' di parodie, ecco. Che bella che sei. E poi c'è la Ferilli. La Ferilli, sì, ti prego. Ti voleva salutare così. Sì. Abì, sei un artigiano della qualità. Sei un artigiano della qualità. Sei di qualità. Sei fenomenale, tesoro mio. Sei fenomenale. Quando te ne sei accorta che parlavi con altre voci? No, vabbè, ma queste sono domande che ti voglio fare di persona, ti voglio qui, sì. Dai, una domenica fatti una passeggiata con la creatura, la diamo in mano a Mauro Meconi e Alessia Navarro, che hanno tre figli in due, uno c'ha due gemelle, sono abituati a tenere i ragazzini. Assolutamente, bravi, Beatrice, non so come facciano con tre figli, io con uno già non ce la faccio più, però... Capito che poi dorme la notte? Tantissimo, guarda. Che culo. Veramente sono stata fortunata, mamma, perché poi qualora non dormisse... C'è mio marito che è bravissimo e lui interviene sempre la notte, perché a me toglietemi tutto, ma non la notte e il riposo. E lui per cui si sveglia tuo marito? Sì, lui si sveglia, lui ovviamente Giulio dorme, fa tutta la tirata. Sì. Però mi ricordo i primi tre mesi in cui dormiva pochissimo. Ah, i primi tre mesi, ma sei una dilettante, amore, c'è gente che non dorme da due anni, sta buona, va. Sta buona, sei una dilettante, è fantastico. Per un figlio, guarda, per i figli. Ti fanno questi sacrifici e altri, no? Tu poi lo volevi da tanto sto bambino, bravo, sì, dai, e ti è arrivato e te lo meriti, tesoro mio. Bravo. Senti, ti abbracciamo, sì, io il tuo figlio è stupendo, visto su WhatsApp, perché l'immagine su WhatsApp è meraviglioso. E beh, che hai visto quanto sono bello io, qual è il problema? No, è un altro il motivo per cui è bello. Hai ragione, Emanuele, grazie a tua moglie, brava. Vabbè, perché era andata così bene sta telefonata? Perché dobbiamo deviare la... È una puntata di Natale. Di sincerità e di Natale. Ho capito, ma io mi chiamo Pino e a Natale... Ti si mettono le palle. Va cagare. Va bene, Manuela, ti voglio bene. Ti vogliamo bene. Ti voglio bene, tante cose. Ciao, un bacio. Manuela Aureli, grazie amore, un bacio alla tua creatura, a tutta la tua bella famiglia. Ciao. Grazie tesoro. Ciao, ciao. Bene, allora siamo arrivati praticamente fino a vero, siamo dovunque agli uffici, vabbè, non sembra, ma lo stand della trasmissione oddio, state a incensarvi a vicenda, ma smetti, allora non ascoltare, non è incensarsi a vicenda. Vedi, io non dovrei neanche rispondere a queste cose. Mauro dice non li leggere, io li leggo perché sei piccolo, cioè noi ci stiamo facendo dei complimenti, intanto valorizzati da quello che uno ha fatto in precedenza al complimento. Non è un complimento, ciao Massimo, complimenti, no, ciao Massimo, legge una poesia e dopo arrivano i complimenti. Non è incensare le persone, è gratificare le persone che meritano quello che hanno fatto. Va bene, ma lo so, Mauro mi strilla perché non dovrei neanche più i messaggi. Vabbè, ma quando sono superficiali, non sono critici, allora non mi piace. Ci abbracciano, ci vogliono bene, vi vogliono bene. Lodolo, ti fanno mille altre domande, ma il tempo sta andando via. Stiamo andando alla pausa quella lunga adesso, vero? E poi rimarremo con Claudio Lippi. Massimo, grazie. Grazie Pino, grazie. È stato un piacere a tutto tondo. Ma grazie Claudio. Grazie a te. Che bella grazie. Cosa, veramente una bella puntata. Continuo ad incensare le persone che mi sono vicino fino alla fine, fino a io far venire. Fino a che avrò fiato dirò quello che penso di chi lo merita. Chi lo merita? E che ho voglia anche tanto di dire quello che penso di chi non lo merita. Merita. Ma quello facciamo, che si fa? È gioioso anche quello. E a Natale siamo tutti più cattivi. Va bene, allora dopo la pausa del GR torniamo con un faccia a faccia con il nostro amico Claudio Lippi e io ringrazio ancora grazie, Massimo Pino. Lodolo, signori. Wow. Ciao, a fra ciao, poco. Ciao. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Anatomy. Eccoci di ritorno come promesso, però non abbiamo ancora il momento del faccia a faccia con Claudio. Devi aspettare ancora 7 minuti, Claudio. Lo so, perché io non me ne vado. Tu vuoi essere incensato, voglio, ancora? Sì, voglio essere incensato. E io voglio chiamarmi Vincenzo. Vincenzo, pure io. Mi fai un po' di complimenti, per favore. Adesso sì, a prescindere. 6-7 minuti. 7 minuti di complimenti. Tu, Claudio, per favore. E dai. Io sono qui, dai. Sono in ginocchio. Per favore. Ah. Ti vedevo, infatti, vedevo solo... alla Levischi. Ma non... Questa è una battuta che mi salvò al Costanzo Show dei tanti che abbiamo fatto pure insieme, Claudio, perché... Insomma, io tutto si può dire, meno che mi manchi un po' la parola, no? E Costanzo era contento che io partecipavo, intervenivo, ma su tutti, cioè non mi stavo zitto veramente un attimo. Mai. E c'è stata una signora che dice, c'è qualcuno, qualche cosa, c'è... e portavano il microfono in platea. La signora disse, ah però Pino Insegno, se sta zitto un attimo, non riesco a seguirla, sta trasmissione, era giusto, nel senso che... Se ti divertiva Costanzo, se ti divertiva la gente, ma io non smettevo veramente di intervenire su chiunque. Mi salvò una battuta di Groucho Marx, e che sono sempre utili queste cose, in cui lui dice, va bene, basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi di me? E mi salvò la vita, perché mi imbarazzai non poco, perché mi specchiai con una realtà... vera, insomma, non, però Maurizio era molto contento che io Maurizio, rideva con la pancia e poi si metteva di dietro col panchetto e ballava. E ma poi, perché lui ama tutti quelli che sono, come dire, anche, bambini, sì, nel senso del divertimento, sì, lui, della, sì, diverso, dell'ingenuità. Con ma era bello poi, perché Costanzo Show dei tempi d'oro era quello dove c'era l'ingegnere, la prostituta, il partigiano, il comico, era veramente, si prestava veramente a una... Stiamo incensando Costanzo. Sì, siamo in ascensione. Qualcuno dirà, ma come fa ad incensare quello che... Vabbè. Però mi ha ricordato anche Rachele, i nostri autori, che tu sei il cattivissimo di Harry Potter. Lucius Malfoy. Infame. Cattivo. Ammazza. Con i capelli bianchi, biondi, chiari. Andavi in puzza, che c'era sì, era troppo bello. Si fa tutte e sette, cinque, no, tipo cinque su sette. E poi incideva con 2-3 camei, tre sì, parole che scuotevano per una mezz'ora. Ma non esistono piccole parti, esistono esiste, piccoli attori, come si dice. Esatto. Per cui sì, restava Lucius Malfoy. Sì, io ho chiesto di là se si riusciva a tirare giù un pezzetto di Lucius Malfoy. Tu a quale saga sei a... Scusate, perché io con lui ho il doppio senso della va spettacolo, come lo guardo in faccia. Io mi faccio saghe da un sacco di tempo. No, lo sapevo. Lo ecco, l'ho preparata. Io lo sto incensando. Sì, sì, sì, solo in inglese abbiamo trovato le battute. Vabbè, non fa niente. No, in inglese non hanno senso. Il Signore degli Anelli, Matrix. Vabbè. Matrix lo vedevo quando c'era il giornalista. Chi? Quale Matrix? No, Claudio, il film, quello La pillola. La pillola ne prende, no, tanto. Oh, la pillola rossa o la pillola blu, per rimanere in Matrix, oppure niente, no, non posso, la pillola blu, no, no, no, no, no, io sono nel blu di pillola, no, sono rimasto, okay, quello, okay, no. Oddio mio, no. No, per cui no, cinema, no. Che cosa preferisci al cinema? Cosa vedi? A parte questo che ti viene, sì, in mente, senta, Claudio, a parte che non vai al cinema, Claudio. Ah, io ricordo, era bellissimo. Cosa? Via col vento. Dai, Claudio! Ah, sì. Ricordo che non... poi tu pensi che la sigla di Via col vento, ma io in uno spettacolo Porta a porta. Esatto, alla gente dice, mi canti un attimo Via col vento? Dice, no, non me la ricordo. Porta a porta, vai. Ma che è Via col vento? Ma che è Via col vento? Ma lo sai tu? Cioè, certo che lo so, ecco com'è. Però la gente si ricorda. Cioè Via col vento ha rubato a Porta a Porta. Esatto. Esatto. Ho capito. Uno l'altro giorno mi ha detto, dico, qual è il protagonista? Red Batman. Dico, no, è Butler. Red Batman. E sì, tutta quanta la storia è a Taranto. Cioè, succede anche questo, c'è una confusione veramente non indifferente guardando il film. Non sono un cinefilo, e qui non attacchiamoci alla logica del cinofilo, che no, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ma devo dire che grazie a un sistema televisivo, adesso non voglio fare adesso, perché non riesco a uscire di casa dopo le 7:30 di sera. Vabbè, ma ci stanno televisioni ormai, delle piattaforme che fanno e grazie al cielo, che non so come la vediate voi, perché c'è stata tutta una polemica molti anni fa, ringraziando il cielo, sul doppiaggio, sui diritti, insomma queste cose. Però in effetti, per una bella fetta di pubblico, pagare solo il canone della visione dei film in televisione è un modo però di fare un po' più di cultura, perché, sì, perché ce l'hai a casa. Sì, ormai sì, on demand, cioè, ormai, e le serie televisive, adesso ormai i grandi attori, no? Noi, sì. Una volta le serie che doppiavamo erano quelle Quando si ama, Febbre d'amore, Falcon Cresta, Valle dei Pini, cioè adesso Beautiful, eccetera. Ci sono ancora qualcosa di questo, ma ringraziando il cielo, ci sono grandissime serie come Breaking Bad, eccetera, Mille, che sono veramente straordinarie, ed è bello anche doppiarle. Lo sai che a me è successo una cosa che mi ha fatto un piacere immenso, che Adriano Celentano mi ha voluto in un cartone di prossima programmazione, perché mi ha detto: io ti sentivo in Beautiful. Mi disse, perché io e Claudia vediamo Beautiful, e se non riusciamo a vederlo lo registriamo ancora, e siccome ho fatto per parecchi anni un personaggio di Beautiful, che uno Nick Marone, vabbè e uno poi fa film, no? Interpretazioni, eccetera, e io Adriano Celentano, che per me era il mito, ma per la mia generazione è arrivato derivandomi da Beautiful. E tu magari lo schifavi quando però insomma, come tu sai, è un approccio un po' più routinier, ecco. Che bello, altri complimenti che arrivano dappertutto. Vergogna, ma che programma è questo? Scherzo, ogni volta che vi ascolto mi sorprendete e mi sorprende come qualcuno possa criticare. No, ma sono pochi. Grande Pino, amo tutti i tuoi doppiaggi, il tuo programma e tutti gli ospiti, eccetera. Ma continuate così. Grazie. Complimenti. Dobbiamo chiudere. Abbiamo trovato anche il pezzo di Marfoil, però non facciamo in tempo. Sì. Facciamo tempo a farlo leggere? E se non ce lo portate, come facciamo? Ah, l'audio! Allora, ascoltiamolo un attimo e poi ci salutiamo al volo, dai. Perché c'hanno la bacchetta avanti. Devi essere molto coraggioso se pronunci il suo nome. O molto sciocco. La paura di un nome non fa che incrementare la paura della cosa stessa. E tu devi essere la signorina Granger. Cattivissimo. Massimo, stavolta ti saluto davvero. Grazie ancora. Un abbraccio grande. Ciao, grazie, Claudio. Ciao Claudio. Noi invece rimaniamo qua, io e te. Sì, soli. Adesso è vero. Soli, adesso è vero, purtroppo. Ciao, a tra pochissimo, voi sanatomi. Ciao, Massimo. Grazie. Ciao. Roma Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio. Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, e con me sempre, ma stavolta da solo, Claudio Lippi. Ci sei? Siamo io e te per un faccia a faccia. E non è piacevole. No, lo so, però non è piacevole, è bello, dai. È quasi Natale, dai. Certo. Che essere buono una volta. Io sono buonissimo, no, ti amo. Lo so. Ma si può dire? Sì, lo so, poi lo sai, no, l'esperienza l'abbiamo già detto, con la nostra esperienza, tu come giurato e io come cantante, è stata fantastica, tu eri emozionato. Fino non è Natale. Tagliamo un velo più tu. Sì, va bene. Allora, tu hai fatto tutto, Claudio. Va bene? Inizi la tua carriera proprio poi come cantante. Tu la cominci proprio come cantante. Come è successo? Dimmelo, perché magari uno ti vede sempre, dà per scontato che esisti, ma qualcuno non sa. Qualcuno pensa che qualcuno non lo sia più così. Sì, ma quelli che hanno paura. Che hanno paura. Ma non siamo ecco. Molto paralleli nelle nostre storie. Come inizio? Inizio con grande passione, quella che insomma normalmente si ha per qualsiasi. Chi è che ti ha acceso la miccia in tutto questo? Un fallimento di mio padre. Ecco. Cioè, no, da un fallimento è scattato una carriera meravigliosa. Una carriera, una strada che io avrei voluto fare. Avevo già anche pronto il contratto con una discografica. Quanti anni avevi, Claudio? 18. Parliamo del 1761. Forse un po' prima, ma mi si è persa. C'era già la Carrà. C'era già la Carrà. Baudo, la Carrà. C'erano già tutti loro. Insomma, diciottenne, una disavventura sociale di mio padre che si mise in società con quello che doveva essere un amico, che scappò con tutti i soldi che c'aveva messo. Succede, devo dire, regolarmente. Tutti i debiti dell'amico, però. Che bello. E quindi l'esigenza fu di realizzare immediatamente qualcosa per salvare la famiglia. Per andare avanti proprio. E quindi mi si concesse di utilizzare il contratto che prevedeva anche un piccolo un anticipo e un contratto che avevo pronto ma che non potevo firmare con il Tabù di Alassio. Cioè, è casa di discografica. No, il Tabù è locale. Locale. Dove ti esibivi? Dove non avevo ancora avuto modo di esibirmi, ma avevo fatto qualche spettacolo. Ce l'avevi sulla fiducia sto contratto? Ce l'avevo sulla fiducia perché il bassista con il quale sarei andato aveva detto che io ero il cantante del gruppo, niente di più. E quindi è stata per me un colpo di fortuna, non l'ho mai detto a mio padre così, perché che insomma, bello. Altrimenti non me l'avrebbero fatto che fare. Poi di quanto si parlava, insomma, Claudio, cioè, la proporzione per far capire anche ai nostri ascoltatori, molti radioascoltatori ovviamente di Radio 24 sono persone mature, sanno perfettamente un po' più di me sicuramente, no c'è un'età molto larga, poi questa trasmissione ha abbracciato un range veramente largo, però di quanto si parlava di soldi. Parlava di 10.000 lire al giorno, ma era già tanto. Ma scherzi, proprio in quest'ambito si può dire che il potere d'acquisto di allora era decisamente una casa poteva costare un milione magari. Sì, e un milione te lo facevi se ti andava bene, certo. Al di là del fatto che poteva andare bene se ci mettevi buona volontà. Oggi, la regola dovrebbe essere, ma oggi non c'è. Oggi ti fai un mazzo così e non è detto che ti venga riconosciuto, insomma, dico, sto usando il tu per fare ma soprattutto i giovani si vedono un po' scansati, anche se non hanno granché tante voglia. A meno che non sia nel consiglio comunale a Roma. Sì, vari consigli, dappertutto. In Italia. Itinerante. Sì, quello dietro, quello è un discorso veramente difficile, un ragazzo veramente c'ha davanti a sé non ha più un obiettivo, ma questo è un altro discorso. No, infatti mi chiedo perché studino, nel senso che è bello vedere che c'è comunque questa volontà. Sì, ma non c'è lo stimolo. Forse se gli viene lo stimolo di cambiare qualcosa, allora dice ok, lì stanno i ladri, ci penso io. Ci penso io. Voglio pulire. Certo. Altri invece non hanno questa grande forza di volontà, dice stanno i ladri, rubo pure io. Per cui diventa un bell'argomentino. Oggi vogliamo parlare della tua carriera, però nasce da un fallimento. Non ho rubato niente. Neanche il lavoro non l'hai mai fatto, ma la gente continua a volerti bene anche per questo, perché poi tu sei sempre riuscito a reinventarti. Adesso parliamo del cantante. Bisogna. E devo dire che è vero che finché vanno bene le cose, devo dire che mi permetto di accomunarmi a te, anche perché siamo molto simili. Un mio recupero, diciamo, fu dopo il Maria Gol. Vero, con Buona Domenica insieme. Buona Domenica del 96. Sì, del 96. 20 anni fa. Del 96. No, di meno. 20 anni fa, Lippi, purtroppo sono 20. Faccio finta di non ricordare. Purtroppo sono 20. È vero, quello fu una tua grandissima rientrée. Noi andavamo malissimo quell'anno, come Buona Domenica. Una formula sbagliata. E che però aggiustammo strada facendo. Sì. Rimase soltanto il gruppo della premiata ditta, il resto cambiarono strada facendo. Prima io, poi arrivo anche ad Amadeus. Anche il simpatico Amadeus. Sì, va bene. Niente, però la cosa più bella fu la tua entrata, perché da lì cambiò la marcia della trasmissione. Sì, Lorella si trovò benissimo. Ma sai, tu riesci veramente a unire l'ironia cioè, fai il falso rincoglionito e non lo sei. Adesso non so quanto sia falso. Non lo sei, non lo sei. Però sei credibile, diciamo. Sì, sì, e questo è un tuo personaggio che ti porti dietro con grande simpatia, perché la gente poi si riconosce. Siamo tutti un po' rincoglioniti, no? Un po' lo siamo, sì, un po' tutti. Meglio oggi. Però la tua forza è quella che sei vicino alla gente. Cioè, io credo che il complimento che ti fanno per strada è sei uguale. Cioè, io credo, ma lo dico adesso, mi dai l'occasione, e non vorrei che questo faccia a faccia diventi veramente una sorta di nuovo amore della... No, vabbè, tanto... Per cui allarghi ancora di più la tua famiglia che è già abbastanza... No, è larga, è larga. Però, in effetti, abbiamo, credo, una caratteristica che non è né un merito, è una caratteristica. Sì, mamma natura. È quella di essere noi per primi gente. Esatto. Quando si dice gente, in genere ormai si sommano degli individui, si fa un blob e si fanno gli ascolti. Io sono ancora convinto che invece le persone siano... La gente sia la somma di tante persone, e noi siamo persone, sì, con tutti i nostri difetti, i problemi, il quotidiano. Con gli stessi, ci svegliamo, dobbiamo lavarci i denti, facciamo più altre cose, che facciamo tranquillamente, più di una volta, meno. Sì, vabbè, io sono un po' un problema. Sei più stistitico? Oggi sì. Oggi? Bene, domenica. Non mi sembra che sia l'argomento. Potevo andare a prendere qualcosa, c'è una stipsi, Lippi? Non ce l'ho. Non c'è la stipsi oggi? Sì, c'è la stipsi oggi. Sì. Un clisterino. Però questa nostra caratteristica, per piacere, non riusciamo a fare un discorso serio per più di due minuti. Ma no, ma è già tanto quello che abbiamo fatto. Esatto. Non c'è un disco, una cosa. Beh, c'è un tuo pezzo che vorrei mandare. No, adesso. Allora andiamo avanti a parlare. Sì, è meglio delle stipsi, dici. Per chi ascolta, sì. Sì, dici, non so, c'era Lippi, c'era una botta di colite. Non ho ben capito di che cosa sta parlando. Hanno cominciato con un fallimento. Chi entra adesso ad ascoltare? Sì, è Claudio Lippi. Non è vero. Oggi è una giornata, più dura a livello intestinale, ma non è... Sì, ed è insolita, ma se vogliamo approfondire, magari sentiamoci sto pezzo. Voleva essere un po' un faccia a faccia diverso. E invece è un'altra cosa. Perché noi siamo di pancia, io e te. Ecco, siamo due persone che prendono la vita di pancia, così come si dice, di gran cuore. Io mi voglio sentire un tuo pezzo, perché tu nasci come crooner. Crooner significa Dean Martin, significa i grandi dicitori, sì, i fini dicitori con la voce molto calda. Tu sei il crooner, rei dei crooner per quanto riguarda il doppiaggio. Questo è riconosciuto da altri. Da altri, non da piaggerino. Tu hai detto no, di io no. Figurati, io sì. Però gli altri me lo riconoscono. Io ti odio per questo. Esatto, perché... ma vattene. Allora, sentiamo questa, come si intitola? Everybody Loves Somebody. Che è? Everybody Loves Somebody. Non ho preso mai questa volta nota 5. Ma fa niente. No, ma... non rinvanghiamo quella cosa. Esatto. Anche se mi farebbe piacere farti capire che tu te lo sei voluto, perché sì, era un gioco. Sì. Quale... E sei l'unico che ha saputo giocare poi alla fine. Ma sì, perché gli altri si arrabbiavano. Tutti ma serissimi. Ma tutti. Anche perché io non riuscivo a assomigliare a nessuno. Era Louis Armstrong che imitava Pino Insegno. Assolutamente, era sempre tu. Edoardo Vianello ancora mi dice, ma chi era qui? Eri tu, dico Edoardo. Ma non ero io. Né come cantavo, né come faccio. Pure Johnny Torelli ha detto, ma quando... No, guarda, forse, e ahimè, non l'ha potuto Aldo verificare. Aldo Fabrizi. Ma 12 ore di trucco. Grazie. Certo, sì. No, ma anche l'anima è molto lì vicina. Ci stava, bonda, lì ci questa, stava, però mi ho preso sempre 5. Vabbè, sentiamoci questo Everybody, sì, lo Somebody, in italiano si intitola... c'è qualcuno, ma sempre. Ho capito, l'hai solo tradotta. Ma allora si usava così, la cover era la versione in italiano, in questo caso, dei brani che spesso erano americani. Quanto dura il pezzo, Alessandro? 2 minuti e 40. No, perché voglio farla ascoltare tutta. Allora vorrei aprire il prossimo blocco con questa canzone. Ah, quindi adesso diamoci una pausa. Abbiamo 2 minuti per poter parlare ancora. Poi tu già negli anni 60 hai cominciato a lavorare come presentatore. Vicino a Mike Buongiorno, a Baudo. Sì, ma cioè non era proprio il lavoro, ero un po' più utilizzato anche con la parola oltre che con il canto. Con il canto, insomma, eri ancora cantante. Era ancora cantante, sì. Ma sì, subito c'è stata la botta forte come cantante, cioè ti hanno riconosciuto subito questo erano status. Tempi nei quali non c'erano scorciatoie, non c'erano talent, per cui... No, sì, oddio. C'era? Dobbiamo riconoscerlo a Pippo. Ah. A Pippo, che fece il che primo... Che sette voci? Che era sette voci. Ah, è vero. Perché quello era un... Quello che oggi viene definito talent. L'X Factor, The Voice della Bravo, situazione. Esatto, è vero, esatto. Giovani cantanti che... Giovani esordienti. Ma sui quali poi si investiva, però. Sì, io... No, sì. E adesso si inverte, ma detto, no, sei dimenticato. Stavo a parlare di 50 anni fa. Stavo proprio pensando che avevo letto, credo ieri o l'altro ieri, di tutti quelli che hanno vinto i vari talent, da Amici piuttosto che The Voice, eccetera. Mengoni, Emma, sono pochissimi quelli che sono riusciti. Che poi Mengoni non ha fatto talent. Emma sì, ma Mengoni no. Mengoni era The Voice. Era The Voice? No, X Factor Mengoni, mi dicono. All'altra volta tutti con la X. Guarda, Alessia Navarro, Mengoni, Rachele, Alessandro, hanno fatto tutti una X. C'era neanche... Mamma mia, ha fatto X Factor Mengoni. Sì, voi sì, siete sicuri? L'ha anche vinto. Vabbè. Però non ecco, te l'ha detto. Non mi ha chiamato. Però ecco, però sì, sono pochi. Pochissimi. Sono quelli pochissimi. Che magari hanno il carattere. Perché, però chi perde magari può essere più bravo. Sei d'accordo che se nasceva adesso in un talent De Gregori o Guccini o Battisti... Ho dei dubbi che sarebbero... Magari sarebbero stati mandati via la prima... Avrebbero cantato se avevano il carattere che hanno avuto e hanno dimostrato, per carità. Però ho dei dubbi sul fatto che avrebbero avuto, perché tanto io quest'altro anno ne facciamo un'altra edizione, questo ha cantato un anno, ha venduto ciao. Però adesso ciao, noi ci salutiamo per ci poco salutiamo, ovviamente per poco. Perché abbiamo altri due blocchi insieme, faccia a faccia. Ma sei certamente felice? Non vedevo l'ora, anzi vedo anche i brividi sulla tua pelle. A tra pochissimo con Claudio Lippi e ovviamente Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno come promesso, continua questo bel dialogo con il mio grande amico e anche vostro grande amico, perché lo conoscete da più tempo di me, almeno chi ti segue, Claudio Lippi, è da tanto. Tu qualche anno festeggi in televisione? 52esimo. Fra televisione, teatro, radio. Di lotta. Per sopravvivere, esatto. 52. 52, hai superato le nozze, hai fatto le nozze d'oro con te stesso. Sì, con me stesso, miracolosamente. Sì, e poi bene. Si è sempre provato di... come dire, di escludere. Bene, cammini bene, stai bene. Sto bene. Par de bypass, ma insomma. Quattro bypass. Due paia di bypass. E gli ordini. Perché è meglio star tranquilli. Sì, poi passi dappertutto. Quelli è... Sì, no, non è il... come si chiama quello che il, suona? Il bench, non è il bench, il pass è quello. No, il bench, no, è... il bypass. Vabbè, non mi ricordo, c'è un'altra cosa. Il pacemaker. Il pacemaker. Crea problemi. No, io passo... Passi da non so dove andare, ma passo dappertutto. Passi, non suoni. No. Senti, parlavamo prima di questi grandissimi inizi e poi la tua carriera come cantante, ma soprattutto come crooner, ma vediamo che la tua carriera poi ha assunto varie dimensioni a seconda del momento storico. Questo è Everybody Loves Somebody. Per ognuno c'è qualcuno. Sempre. Per ognuno c'è qualcuno, sempre. Che la cantava in origine Dean Martin, no? Come abbiamo detto prima. Sì, adesso... esatto. Dean Martin con una versione anche di Frank Sinatra. E poi non poteva mancare il terzo. Sei chiamato addosso da solo. Noi ce le chiamiamo addosso. Allora sentiamo la versione di Claudio Lippi. Sì, grazie. Vai. Per ognuno c'è qualcuno sempre, mai nessuno vive senza amor. Ora so che il mio qualcuno, amore, sei tu. Per ognuno c'è qualcuno sempre, qualcuno che ti sa capire. C'è una bocca che la bocca ti possa baciare. E se fosse mio potere, tutte quante le farei uguali a te. Con il tuo dolce sorriso, col tuo viso che m'ha fatto innamorare. Per ognuno c'è qualcuno sempre, mai nessuno vive senza amor. Ora so che il mio qualcuno per sempre sei tu. E se fosse mio potere, tutte quante le farei uguali a te. Con il tuo dolce sorriso, col tuo viso che m'ha fatto innamorare. Per ognuno c'è qualcuno sempre, mai nessuno vive senza amore. Insomma, per ognuno c'è sempre qualcuno. In linea di massima, sì. Io voglio continuare a crederlo e a farlo credere ai giovani. Perché, ma sì, perché dai, ci sta, ci perché sta. Perché bisogna crederci, se passa quello è inutile veramente... Sì, ma devi sempre pensare che quella sia tutta la tua vita. Sì. Che quelli, sai, è facile stupire un amico diverso ogni giorno, che ci vuole? Assolutamente sì. Devi stupire la persona che hai vicino tutti i giorni, cioè io ti conosco da sempre, tu conosci me da sempre, se riesco a far ridere te, come l'altra sera che mi hai fatto questi complimenti per il Gran Premio del doppiaggio, io sono stato doppiamente più felice. Il bello tuo è che non fai solo ridere, certo, cioè hai dentro l'anima del comico, ma anche tu l'altra sera o la settimana scorsa hai avuto la capacità in un ambiente assolutamente poi molto ristretto, nel senso che il doppiatore ha questa logica del buio, che vivete al buio, è un carbonaio, marmotta, il carbonaio eccetera, e credo che la battuta per tutti, con l'ironia del riconoscere a tutti però un merito, una capacità, una bravura. Ma è quello che fa il presentatore, poi no? Fa un passo indietro. Ma non siamo rimasti in tanti. No, ci sei tu. Ci sei tu che c'hai questa grande ironia, Baudo meno, molto meno. Giancarlo Magalli gliela riconosco. Sì, a volte adesso sta eccedendo. Giancarlo ammazzerebbe la madre piuttosto di una battuta. L'abbia fatto, adesso non vorrei dire una notizia. Non si ferma di fronte a niente, no? Tu sei più un presentatore, c'è ancora il gusto per cui, del rispetto, esatto, ripeto, quando tu convinci la persona che è più vicino, che ti conosce di più, hai vinto, nel senso il tuo complimento vale 3-4 volte il complimento di una persona normale, per cui la cosa bella è sempre voler bene a quello che si fa, tantissimo, affrontarlo con grande umiltà, è una passeggiata, lo dico sempre, finisce a un certo punto, però le persone che hai vicino, alzi il telefono, tu mi chiami alle 4 di mattina, prima ti mando a cagare, poi ti dico che serve Claudio. Infatti, e venga aspetto un'ora perché almeno aspetta ci sei se gliela fai, però se il bypass che difetta chiamami subito, sì. Se hai una stipsi il clistere dopo posso fare la mattina pure alle 7:30, ma se il bypass chiamami anche alle 4, che poi è quello insomma, no? E per ognuno c'è qualcuno sempre. Se tu ci sei tanto, stato sì, per qualcuno, come dice John Wayne, tutta la gente che incontrerai salendo poi la rincontrerai scendendo. Che bello, John Wayne. John Wayne, sì, sono quelle frasi belle del cinema. Che io purtroppo per ignoranza non conoscevo. Sì, no, ma stanno, soprattutto nei western ci stanno. Ehi ragazzo, ricordati, se ti alzerai una volta di più di quelle che sei caduto, allora sarai un vero uomo, no? Sono quelle frasi proprio western, bellissime, cioè quella dei Magnifici Sette. Lì uscì quella battuta che poi l'hanno utilizzata in mille altri film, quello che stanno in questo piccolo villaggio in sette e stanno aspettando l'arrivo della massa di Comancheros che venivano a distruggere il villaggio, e si avvicina Charles Bronson si avvicina il ragazzino, a Steve McQueen e gli dice: ma oh, fin qui tutto bene? E lui dice: mi sembri come quel tale che cadendo dal decimo piano diceva al nono: fin qui tutto bene, all'ottavo: fin qui tutto bene. È una battuta strepitosa che poi da lì è stata utilizzata in tantissimi altri film. Lì sono rimasto stupito perché il decimo piano non stava ai tempi del western, però chi se ne frega. Ma l'ha messo dopo. Però ci sta. Senti, insomma, tu stiamo camminando un po' largo, un po' dappertutto, ogni tanto tracimiamo all'esterno, però normale. Qui parliamo di voce in tutte le sue declinazioni e parliamo di una persona che con la voce ha fatto qualsiasi cosa. Hai cominciato come cantante, poi hai fatto una tua etichetta. Io leggo i miei grandi autori, che ringrazio sempre, sono perfetti in tutto, Alessia e Mauro. Disco Azzurro? Sì. Complimenti davvero, perché credo che neanche i familiari ricordino questa cosa. Davvero. Disco Azzurro perché che c'era nel 1972, devo dire. Io avevo 72. Già deciso di lasciare la discografia perché nel frattempo erano meritatamente arrivati i cantautori e quindi il movimento si era fatto totalmente diverso. Anche il momento reazionale, insomma, i cantatori veri, De Gregori, Guccini, Folk di Studio, Venditti. Cioè, il vero cantautorato, Venditti. Sì, nasce là, e ancora c'è, ringraziando. E grazie a Dio, sì. Per cui avevo già capito che come interprete avrei avuto grosse difficoltà. Vabbè, però tu facevi parte di un certo un altro tipo di musica, insomma, sì, musica pop, leggera. Stava finendo, però. Anche, in quel momento era... Stava finendo perché... C'era il rock progressive, no? Se c'era non mi appartiene. No, non sei progressive. PFM, no, neanche il banco del mondo. Neanche Antichity, sono forse oggi vintage, ma vintage. Non ti vedo tu a PFM. No. Neanche non... con le orme. Non le lasciavo nemmeno le il banco del primo soccorso al banco del... quello ci ho fatto banco. Dopo ho avuto molti pronti soccorsi più che altro. Sì, quattro, però andavo sempre sulle malattie. No, poi. Perché quando sei vivo è bello ricordare che hai avuto il momento, esatto. E quindi dicevo hai fondato questa, e pensavo allora che, pur essendo stato molto influenzato da tutta la musica americana, i Little Richard, gli Elvis Presley, tutto quegli anni 50-60, compresi i Beatles degli anni 64, pensavo che si dovesse, approfittando del fatto dei cantautori nostri, dare spazio alla creatività italiana. Fui accusato di fascismo, di tutto. Perché te facevi qualcosa per gli altri. Tendevo a privilegiare la musica italiana, cercando di trovarne l'aspetto da diffondere. Beh, eri produttore a quel punto. Un vero produttore. E cominciare questa carriera anche radiofonica, visto che siamo per radio. La radio, come ben sai, doveva fare. Perché per arrivare in televisione, comunque, si doveva fare la radio. Che bella cosa, vedi, la gavetta. E io la rimpiango come poche cose della mia vita, anche di altra natura. Perché la radio ti insegna a dire cose sapendo che c'è chi le ascolta, non chi le guarda e non le vede, come la televisione. Certo, ma poi lo diciamo sempre, la radio è evocativa. Poi questa voce nella cuffia, qualcosa che ti torna. Va bene, quindi c'è un grande amore verso la... Senti, poi c'è grande amore, io non so, veramente... Guarda, stai attento a quello che dici. No, so poco, mi piace, insomma, visto che siamo qui, parliamo degli inizi, insomma, la carriera se ne parla. Però l'amore, quando l'hai incontrato poi la prima volta? Tu sei stato sposato, giusto? Io non so niente, giuro. Più volte... Te lo sto dicendo, ma non voglio fare il gossip stupido, parlo dell'amore, che l'amore che hai messo quando... L'amore l'ho incontrato... più volte, se per quello voglio dire. Uno... Tu hai figli? Io ho due figlie, sì. Due femmine. Figlie femmine, e ne sono felice. Certo. Perché comunque la femmina... Sei nonno? Sono nonno di una femmina e sono felice. Sto diventando femmina un po' in... Sei sposato con delle femmine? Sei stato sposato quante volte? Assolutamente sì. Certo. Sposato con il rito... Il primo. Il primo matrimonio. Con cui hai avuto le figlie. Con cui non ho avuto niente. Non ho avuto niente. È durato sei mesi, tra l'altro. Vabbè, un record straordinario. E quindi ho incontrato un amore che è passato così velocemente. È scappata lei o sei scappato tu? No, ci siamo accorti di aver fatto una cosa... Eravate giovani. Eravamo, sì, io sicuramente, e lei più di me ancora. Però lei cercava un po', non l'avventura nel senso tradizionale, dare un senso... Un brivido alla vita. Un brivido che forse non aveva ancora provato, perché è molto benestante, perché è un po' viziata e così via. Quello ha visto che è stato... sto bel biondo... Ha visto sto bel biondo un po' coglione, ma perché non provarci con lui, tanto sicuramente se poi finisce... Ero già famoso. E forse quella è stata la scintilla, tante volte se c'era questo... Può aver favorito l'incontro. Esatto, dice, fammi vivere facile questa storia. Sei mesi. Poi invece ho trovato, e questo nell'83, una splendida persona con cui sono stato insieme... Ah, prima di questo matrimonio c'era stato un rapporto di convivenza dalla quale ho avuto la prima figlia, ed era quindi del 75. Madonna mia. Adesso si confondono anche un po'. E poi hai avuto il matrimonio con cui ho l'altra figlia. Cui ho avuto l'altra figlia. Civile è la parola che devi utilizzare in questo caso. Con maggiore civiltà e con rito civile, cioè in Campidoglio, cosa che non farei mai più, perché può essere che vai in galera il giorno dopo. Sì, perché t'hanno conosciuto il sindaco, hanno arrestato, ha celebrato il tuo matrimonio, allora è abusivo. motivo, non dovevi, che avevi già una figlia. Bravo, che forse era di una. Vabbè, lasciamo. Ecco. Per cui altro matrimonio, altra figlia. Altra figlia, poi una separazione e un divorzio dalla mamma della seconda figlia, con la quale l'11 di ottobre mi sono risposato. Ma che meraviglia! Sì. Ma dai! E ne vado orgoglioso. Beh, certo. Perché glielo dovevo. Hai fatto come Richard Burton Lizzei, a un non certo ricordo punto, bene. Sì, ma a un certo punto, cagare, poi si sono incontrati e si sono risposati. Che, fra l'altro, si fa con una... come dire, con una coscienza totalmente diversa, ovviamente. Non che c'è bello, stata sì, festa. No, esatto. Era proprio la volontà di dire, visto che io stiamo mi sono da solo, e sono tornato in casa, ci siamo ritrovati. Insomma, che bello. Per me è molto bello, no, per lei un po' meno se ne accorta queste, da un poco. Queste sono le cose che fanno anche bene al calcio, pensa. Fa bene a tutto una cosa del genere, fa benissimo. Al calcio? Sì, si dice, queste cose fanno male al calcio, cose, però... Non stai bene tu oggi. No, ma è bello da perché... Da dove arrivi? Va bene, l'ultimo blocco, tra pochissimo, con l'amico Claudio Lippi, a tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presento... Sanatomi. Eccoci, bentornati. Claudio Lippi è sempre qui al mio fianco. Per fortuna, sì. No, mia, ci sei. Ci sei, una piccola stipsi, quattro bypass, ma funziona tutto, santa miseria. Certo, dai. Vai. Abbiamo parlato un po' di tutto, perché tu dovrai tornare. È vero che stai con me dall'inizio della trasmissione, ma sei venuto con me ad aiutarmi in appoggio agli altri ospiti che abbiamo avuto straordinari, sia fantastico, telefonici che di presenza. Fantastico. Ricordo il grande amico Massimo Lodolo, doppiatore e attore straordinario. Lo ricordiamo tutti sempre. No, ma è vivo, cioè, ma non lo ricordiamo, è vivo. Ricordo. No, ricordo della Lippi, non si può fare così, vabbè, santa miseria. Allora vabbè, mi vendico. Ecco, mi vendico. Ecco. Insomma, dopo gli anni 70, tutti questi matrimoni e questa storia è bellissima, il fatto che tu ti sia risposato con la tua ex moglie è molto bello. Lei ti sta cacciando da casa? No. Non ti dice per no, te ormai... questo matrimonio finisce qui? No, no. Non ti nomina. Nomination, no, non stai in nomination questa settimana. No, no. Però questa cosa mi fa ridere, anche perché l'ho scoperta da poco al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, quando ti ho presentato. Io non me lo ricordavo che tu nel 1975 hai avuto la tua prima esperienza come doppiatore nel cartone Barba Papà. Però in cui tu doppi tutti i personaggi maschili. E Orietta Berti tutti femminili. Non è vero, non lo sapevo. Sì, sì. Cioè tu e Orietta Berti avete fatto Barba Papà, sì. Barba Mamma, questo per Barba dire, Zio. Barba Nonno. No, Lippi. Lo so. Questo è come quando vengono i miei colleghi e nascondono certi passati, come l'ha tolto Luca Del Fabbro, e non mi ricordavo che era Carletto dei Sofficini. Cioè, no, per carità, va benissimo, però tu doppi quell'attore straordinario, quello, quell'altro. E ti ritrovi poi a essere famoso, fai doppiato Carletto. Allora io intanto, prima di ascoltare la tua esperienza, perché voglio parlarne lungamente di questa esperienza, io preferirei di no, ma fa niente, no, me la voglio la sigla pure cantavi tu, sì tutto, non te sei io ho fatto anche il pupazzo l'hanno costruito su di te, su Barba di me, Papà, sì. E la Barba Mamma era piatto, era tutto, e beh, piatto era sei come Ken, ascoltiamo Barba Papà. Barbo il più nero di un corvo, e quando dipinge si è certi che si macchia da tutte le parti. Non sei tu questo? No, sono i nuovi doppiatori. Ma questo è nuovo. Mi spiace dire, ma cerchiamo un attimo quella vera. Cioè, se riesci, ma... Alessandro, lo so, se avete, sono reperti. Sì, esatto. Guarda se c'è Indiana Jones. Se perché aperto, l'hanno ricantata. E hanno ridoppiato tutto. Io temo che avessero avuto... No, perché è un problema di... c'è mono, stereo, 5.1, eccetera. Non noi pure so abbiamo ridoppiato, si è ridoppiato dei film. E perché si perde proprio la colonna. Si perde la colonna. Si rovina così tanto che bisogna rifarla. Hanno però tu questo... non, questa sia è o non è questa, tu l'hai fatto e questa era bella, perché poi è rimasto un punto fermo, insomma, i cartoni animati. Sì, io due cose vorrei dire, sì, e dico davvero con tutti e quattro i Pepaschi, quindi col cuore attivo. Sì. Uno, non me ne vergogno, ma non mi ero reso conto di quanto fosse importante. Uno. Secondo, proprio in occasione del premio internazionale del doppiaggio, mi sono sentito in dovere di chiedere scusa a tutti i doppiatori. Perché il fenomeno al quale io ho assistito, e credo anche voi, voi doppiatori, anche con una leggera sensazione di fastidio, è che ultimamente, come in teatro, si scelgono a volte personaggi... Sì, succede nei film cartoni animati per dare profumi la comunicazione America, ovunque, di stampa. Sì, ma in America chiamano gli attori. Però chiamano gli attori, e ci costruiscono, esatto, televisivi. E ci costruiscono sopra il cartone dopo che hanno recitato, ma sono attori. Qui invece quindi c'è questa regola... è un riconoscimento alla categoria, sì, sostanzialmente. Sì, sì, sì, sì. E qui mi sono sentito di dover chiedere scusa perché allora forse non era ancora un fenomeno, 75... No, ancora no, era no, forse la freschezza di un no, personaggio, ma era la coppia che funzionava, era dare un viso a quei personaggi, a quei senza personaggi viso che dai, non avevano viso, esatto, dai. E mi sono reso conto quanto sia difficile, ma questo va detto, non è difficile, poi... è difficile, ma devo dire che la gente lo riconosce, è un lavoro da certosini, sempre di più, devo lo dire, apprezza sempre per di fortuna. Più perché è un lavoro importante, si fa in tutto il mondo e noi siamo veramente i più bravi del ed mondo. È vero che viene riconosciuto dal mondo, dagli stessi attori a cui date, esatto, voce quando vengono a sentire la colonna in italiano. Sì, si parte tutto dall'Italia. È sempre la più gradita rispetto ad altre persone. Loro danno francese, proprio lo start-up, proprio come faceva Woody Allen. Prima dava lo startup all'Italia con Lionello, che dava poi il motivo agli altri. Agli altri. Guarda come deve essere, certo, il doppiaggio. Certo. Dove ti sei trovato meglio? Tutti i personaggi della televisione, delle trasmissioni. Qual è stato il momento più bello? Sono stati tanti, perché in 52 no, anni... No, sai cosa? Sì, in effetti... Diversi fra loro, perché anche l'avventura come giurato, anche tale quale, è stata un'esperienza bella. Sì. Però la tua conduzione di Buona Domenica è stata bella, a parte un piccolo momento di defaillance che hai avuto. Quella era dovuta perché si era andati oltre... Sì, sì, sì, sì, sì. Che per me... Vabbè, ti sei preso le due responsabilità, ne hai parlato, le hai affrontate e le hai pagate, no? E quando è così? Pagate nel sistema, non col pubblico. Non l'hai fatto col di dietro degli altri, come si fa normalmente, lo fai col tuo. No, infatti da quel momento in poi è stato un casino, per carità, ma non nei confronti del pubblico. Però i momenti che secondo me ho vissuto con maggior divertimento, come grazie al cielo è questo mestiere, che noi chiamiamo mestiere, ma è... per chi lo fa con l'amore con cui si vorrebbe fare, è un grande gioco, è un grande divertimento, anche se crea delle ansie e così via. Sì, è stato sì. Mai dire gol. Ah, mai dire gol, è stato bellissimo, la Jalapas è fatto il lavoro bellissimo. La Jalapas è stato... Cos'è che fa? Rimbalzo, sì, sì. Diceva, fanno ok, dicono ok, è vero. Beh, è vero. Si fa ok, però sembrava un così, concerto. No, no, ma Mauro Megoni, Ale, loro... c'è ok, barba. Dai, hai trovato. Ha trovato. Barba papà è tutto rosa, più di una rosa. Questo sei tu? No. Eccola. Eccolo. Per volare. Aspetta. Insieme. Questa è la Berti però. Questo rientra a Berti. Ma sì, questo è Berti. C'è già. È uguale. Come artista sì, quello. È uguale. È vero. Vola. Stai nel coro tu. Grazie di aver preso solo Rietta, molto non carino, arrivo, dall'altra parte del video. Lascialo in sottofondo, mentre ora quando sentiamo la voce di Lippi entriamo. Si sta passando la stipsi. È un buon metodo. Tutti stanno arrivando dei messaggi, dice, ma sai che fa bene. Eccolo. Tutti quanti si va, barbottina. Vabbè, ma ci sta. Sì, ci sta. La Jalapa è stato un bellissimo momento. È stato anche un quello... bel momento. Ma sì, con te è perfetto. Loro attaccano e tu sei un ottimo incassatore, dai. E quindi era perfetto. Il rapporto era perfetto. Divertito. Eh sì, era perfetto. E mi sono rapporto. Molto divertito nei Giochi senza frontiere. Ah, è vero. Perché era un mondo... Tu ti rendi conto? Io parlavo con Michele Cammino di questo. Sì, dice, grande doppiatore, eccetera, ma pure lui ha condotto Giochi senza frontiere. Quando faceva, che ascolti faceva? 20 milioni? Vabbè, erano altri 25. Tempi. Ti ho capito! Per carità, certo, ma sono ancora oggi, certamente da un pubblico un po' più datato, sbaglio, sì. È finito il bar papà sotto. Sì, sì, è andato via. Mi sento via. Molto meglio, sì, grazie. Tranquillo, tornata alla stipsi. Sì, si è tappato di nuovo tutto. Per cui i giochi erano un momento di... Intanto si riuniva davvero la famiglia, questo sì. È come... oggi per qualche film, per sì, sì, lo dico, uno certo spettacolo a teatro, era un momento, non era un elettrodomestico il televisore, no, era, no, ti faceva compagnia, sì. E soprattutto in quei giorni, il sabato, che okay, il varietà, sì, era il momento in cui papà, mamma, nonno, nonna e figli erano seduti insieme davanti, sì, al televisore. E, ed è bello immaginarlo, sì, però sì, sarà anche romantico, certo, ormai... Sì, non è datato, è Roma, è vero, dovrebbe essere così. E beh, sono momenti di aggregazione, che può essere il cinema, che può essere il ristorante. Assolutamente. Che può essere un, la come, trasmissione come televisiva. Come Natale. Che esatto, sono momenti di aggregazione. Quelli erano momenti di aggregazione. Si vedeva lo sceneggiato insieme. Certo. Si vedeva il varietà insieme. Sì. Le altre volte, se eri un po' più grande, lunedì vedevi il film con i genitori, se non andavi a dormire perché dovevi andare a scuola. Va bene, certo. Carosello, certo, eccetera. Carosello, certo, funzionerebbe, certo, anche adesso. Sicuramente, perché i personaggi famosi che fanno lo sketch di un minuto e mezzo, sinceramente me lo vado a vedere. Insomma, se vedo, sì, un personaggio che adoro, vedo che Cozzalone fa reclame dei pannolini o qualsiasi altra cosa, ma lo vedo, certo, cioè, è fatto in modo intelligente, come era prima, com'era prima, di autori a scrivere, capito, a per, vabbè, cui è un'altra cosa, per cui ne ho avuti tanti di momenti belli, sì, dai, sì, adesso sollecitato, sì, no, dalla tua sgradevolissima capacità di cogliere nel... sei un po' costanziano in questo, tu hai avuto, sì, anche tu un ottimo rapporto, sì, con Maurizio, sì, ci siamo stati insieme molto bene, sì, sì. Dico costanziano perché Maurizio è indubbiamente fra tutti i giornalisti, sì, lui è un attacco, lui fa proprio la risonanza magnetica, sì, sì, sì, riesce, da pure la risposta subito e tuttora, sì, questo Piccio, la tua Piccio, però ha sempre detto Piccio lui, sempre, no, no, no, ma questo non è che sia cambiato lui, come a voi Sanato mi dovrebbe essere il protagonista quando parliamo di voce, è perfetto, tre consonanti e due vocali, ma ci ha fatto il mondo, sì, no, no, numero uno non ce n'è, puoi amarlo, quindi... chiaro, ma è il numero uno. Bene, bene. Scusa. Senti, no, io invece volevo concludere questa puntata senza collegarmi col calcio, non voglio sapere niente, non mi importa niente oggi. No, no, no, è giusto che tu va sappia bene, che comunque... va bene così, va bene così. Però voglio finire con un altro tuo pezzo per dirti e sottintendo e vorrei sottintendere quello che pensa la gente di te. Questo è un aggettivo importante e io ci tengo, te la dedico, è una tua canzone. Non tua personale, ma insomma. Tu non devi fare io... serate prima della domenica. Te la dedico, sì, con tutto, grazie, il cuore, ah, perché vero, penso, vabbè, di interpretare il pensiero della gente. E con questa vi saluto e ci grazie, sentiamo la prossima settimana. Buona domenica. Questo per me sei tu. Vai. Sì. È vero, credetemi, è accaduto. Meraviglioso, no? No, certo. Va bene, non quello che sta per succedere nella canzone, ma è, no, meraviglioso, no, ok? Grazie, grazie, grazie. Un bacio a tutti. Un nuovo matrimonio, si conosceranno, avranno dei figli. Pino e Claudio. Spegnete i microfoni. Ciao a tutti, a domenica, ciao, prossima. Qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, persino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso.